Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. È domenica, 22 maggio, ore 14, 31 primi e 41 secondi, e come sempre apriamo raccontando una voce, è la sua festa oggi. Lui è Johnny Gill, non famosissimo in Italia, ma un grande R&B man. Lui oggi compie un'età importante, ci ha regalato veramente molti sogni grazie alla sua bellissima voce. E allora cominciamo così, facciamoci coccolare pochi secondi dalla voce di Johnny Gill. You look sweet as ever, just how I picture you. Swear that you're looking better, and that's so hard to do, girl. Girl, I hope you don't mind if I reminisce on a time when I was your guy and you were my girl. There was nobody else in my world. Let's get the mood right. Turn on. Ma è anche un altro compleanno, mi piaceva tantissimo dare voce a chi ci dà la voce, al nostro direttore, al quale abbiamo rubato due minuti nel giorno della sua festa, anche se lui non vuole festeggiarla, lo festeggiamo ugualmente. Roberto Napoletano, direttore di tutto il gruppo Il Sole 24 Ore e quant'altro. Roberto, buongiorno. Buongiorno, sentiamo, grazie di questi auguri, diciamo così, radiofonici. Buongiorno direttore, auguri anche da Gino La Monica. C'è Gino La Monica qui al mio fianco, la voce di Richard Gere, la voce di Jeremy Irons, la voce. Comunque non è vero che non voglio festeggiare, cioè, anzi, mi dice sempre che bisognerebbe vivere con un po' più di leggerezza. Allora diciamo la. Bravo, vita, a me piace la leggerezza. Invece almeno il giorno del compleanno, diciamo che bisogna avere un po' di questa leggerezza ed è bello, secondo me, compiere gli anni e festeggiarli, quindi questo secondo me è veramente importante. Quella è la cosa fondamentale. Insomma, direttore, ci dai voce, questa è la cosa che ci piace tantissimo e credo che piaccia tantissimo anche a te aver costruito una radio, a parte il quotidiano, a parte tutto il resto, voglio parlare di questa radio, che dà la possibilità di raccontare, no? No, la cosa è molto semplice, se dovessi dire quello che ha rappresentato di più e rappresenta e secondo me sempre più rappresenterà Radio 24 è la radio dell'altra voce, cioè nella radiofonia fino ad oggi abbiamo avuto la radio paludata del servizio pubblico e abbiamo avuto la radio della musica, tante radio della musica. Ecco, Radio 24 è il primo esperimento, a questo punto possiamo dire riuscito, di una radio che ha rappresentato, che ogni giorno è testimonia l'altra voce, cioè una voce irriverente, non paludata, direi soprattutto libera. Questa è Radio 24. E il successo di questi ultimi tempi, del successo di pubblico, di ascolto, di fidelizzazione, che è enorme. Anche Gino è uno che comincia la mattina prima di entrare in sala di doppiaggio su un set. Subito Minoli. E la sera alle 7 rientro in macchina e sento la zanzara. Vabbè, quello è un classico ormai, quello, no? Assolutamente no. Sì. Va bene, Roberto, non ti voglio disturbare oltre, mi sembrava giusto. Anatomics, c'è questa voce, quindi dove poteva esserci questo programma se non era su Radio 24? Voce, no? Va bene, dai, buona domenica. Grazie, buona domenica anche a te, tanto. Roberto. Stai bene, auguri. Arrivederci. Ed eccoci. Allora Gino, ti sei subito presentato. Io volevo presentarti in maniera consona. Certo, certo, tanto è vero, quando hai parlato della voce di quello lì dico Madonna che belle cose che dice di me, della mia voce, del mio passato. No, non ero io. Non eri tu, Gino. Guarda, stavo per uscire, stavo per andare via. No, è possibile. Perché noi tu senti soltanto quelle trasmissioni. La domenica magari mi bypassi e io, come non ho mai bypassato te ogni volta che mi hai chiamato, tu invece magari la domenica hai qualcos'altro e non mi ascolti. C'ho una bambina di 3 anni. Ecco. La domenica sto vicino. Lo so. Tanto è vero, stamattina tu sei dovuto testimone che la vita non finisce mai. Tu quanti anni hai, Gino? Diciamolo, dai, puoi dirlo tranquillamente, perché almeno dai speranza a tutti di poter avere dei figli. Come diceva Charlie Chaplin, ho fatto una figlia a 80 anni, l'unica cosa è non riesco a tenerla in braccio. Infatti anche per me è difficile, ogni tanto dico amore mio non ce la faccio più, c'ho una certa età. No, in braccio papà. In braccio, parla come te quando doppiavi all'inizio. Esatto. Gino, tu ti sei diplomato, fai questo mestiere da quanto ormai? Quanto è che lavori con questa voce? 54 anni. 54 anni. Ho superato il mezzo secolo. È più bello dire ho superato il mezzo secolo. Ma soprattutto hai cominciato prima di fare l'Accademia a questo punto? No, proprio durante l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Parliamo della Silvio D'Amico. Avevo 18 anni, il primo anno d'Accademia, hanno cominciato a chiamarmi alla radio. Per cui 18 anni più 54 fa 72. No, l'hai scoperto. No, l'hai detto, Gino, l'hai detto. Ma tu hai fatto un figlio a 70 anni. No, a 68. 68. 68 e mezzo. Ma hai fatto bene, hai fatto bene. Una figlia. Io ho una figlia grande che ha superato ormai i 40. E ha una figlia, la mia nipotina Viola, che ha 5 anni. E per me è molto difficile far capire a mia figlia che lei è la zia di una bambina più grande di lei di 2 anni. Che bella questa cosa. Beh, insomma, questa trasmissione accompagna anche questo. Qui è cominciato Silvio D'Amico, subito volevi fare l'attore. Assolutamente, no? Sì, io non pensavo proprio di fare, volevo fare l'attore, il teatro. L'hai fatto. Ho fatto tanto teatro, ho fatto soprattutto tanta televisione. E negli anni 70 e 80 ero, possiamo dire, tra virgolette, un divo televisivo. Insomma, entravo nei ristoranti, sì, la gente si fermava. Diciamo, vedi, chi è quello? Quello che mi ha pagato il conto l'altra settimana. Infatti mi guardavano, io mi giravo sempre per dire che stanno. Ah, no, ero io. Sì. Sì, che poi in quel periodo veramente si sceglieva di fare questo mestiere perché si amava fortemente questo mestiere, non erano scorciatoie di talent per farsi riconoscere, non ci pensava che sarebbe diventato famoso, voleva diventare bravo e basta. Poi se le cose coincidevano. No, soprattutto io seguivo una vocazione. Io parlo del mio mestiere come una vocazione, visto che a 13 anni io recitavo davanti alla scuola, recitavo le poesie, tutti fermi lì, prima di entrare a scuola, erano capaci di arrivare mezz'ora prima per sentire. Affabulatore, ma si era così, al centro dell'attenzione. Al centro dell'attenzione. Poi la cosa divertente è stata che una mia professoressa di lettere, un giorno io ero assente e che mi faceva sempre leggere, ogni volta entrava, dice pagina 84, Gino Armonica, leggi. Certo, disse agli altri ragazzi, disse, ma sapete che Gino La Monica ha una bellissima voce e potrebbe fare l'attore. Per cui già si respirava questa cosa. Ma ragazzi, il pomeriggio mi hanno chiamato tutti, c'ero in telefono. Che poi non è la bella voce, siete d'accordo che sono le belle intenzioni, non è la bella voce. No, è la parola, è come la pronunci, perché la parola è la punta di un iceberg. In quest'iceberg ci sono tutte le tue emozioni, c'è la tua vita, le tue delusioni, le tue battaglie, le tue vittorie, le tue sconfitte, i tuoi amori, c'è tutto. I colori della voce, delle emozioni. E quando tu dici quella parola è proprio la punta dell'iceberg. Quando ero ragazzo sentii uno che disse, si sente che, guarda da come dici questa battuta, si sente che tu non hai letto Kafka. Pensavo fosse una battuta. Come? Nel tempo sì, ho pensato che avessi ragione. Non avevi letto, perché mancava quella profondità introspettiva. Mancava quella profondità, quella paura, quella sospensione che solo dopo aver letto Kafka io ho capito. Vedi, io ancora non l'ho letto, non scherzo, l'ho letto, no, per questo non l'ho capito. No, però è bello, l'hai detto tu, è una vocazione. Non so, non è la bella voce, quello che cerco sempre di dire, raccontare niente, attraverso questi microfoni, che sono le belle intenzioni. Alcuni fra i grandi doppiatori non hanno grandi voci. Non avevano, qualcuno è morto, avevano grandi voci. No, però avevano queste voci così intense che potevano raccontare. E che ti stavano vicino, che ti entravano dentro, al momento in cui le sentivi pronunciare, tu dici, senti che profondità, che bellezza. Qui tu, Luigino, Gino, Gigi, com'è? Gino. Tu Gino, lo so, è Gino. Tu sei nato a? Ebbene sì. Tu sei del sud? Sono un uomo del sud. Lo so che molti. Siamo credo tutti uomini del sud. Che l'uomo del sud ha costruito un po' il nord. Cioè, anche gli uomini del nord, ovviamente, ci mancherebbe. Però io sono nato a Portici. Proprio Napoli. Portici, che ormai è collegata a Napoli, ma allora era un po' distante. E poi ti sei spostato subito oppure sei rimasto? A sette anni sono venuto a Roma, tanto è vero che i primi anni, a 13 anni, che avevo comunicato ai miei amici che volevo fare l'attore, cioè un ragazzo mi disse, se vuoi fare attore, dici vero, verde. Come dico vero, verde? E allora mi sono messo a sentire l'edizione. Si sentiva molto la radio, io mi segnavo tutte le edizioni. Quando sono entrato in accademia a 18 anni, mi hanno messo a insegnare gli altri. Perché io ormai avevo superato. L'avevi già fatto, ma la tu cosa sei sempre stato avanti. No, la cosa strana, e mi dispiace un po', che io ho perso la possibilità di esprimermi in dialetto, e quella è stata un po' una perdita. Sì, per il napoletano che è una lingua, poi è una lingua. Il napoletano è bello, mi sta piacere conoscerlo, perché così posso capire De Filippo, però ho dimenticato qualsiasi addentellato che mi richiami. Qualcuno dice da dove è nato Gino, qualcuno dice Svizzera forse, perché parla in questo modo. Poi hai fatto sempre doppiato dei signori straordinari, ma il Jeremy Irons su tutti l'hai sempre fatto, poi perché hai anche sporcato la voce. L'attore... so che tu ti arrabbi quando ti hanno detto una volta, ma tu devi buttare, come è stata quella volta, buttala questa intenzione. Ma come butta? Dove la butto? Nella spazzatura, ci ho messo anni per imparare questa battuta, per dire così questa battuta, ma non solo io, Giuseppe Battiston l'ha detto in un suo monologo. E poi che facciamo le battute? Le prendiamo e buttiamo via, eccesso. No. Perché buttare in gergo significa farla semplice, certo, sporcala, eccetera. Ma come sporco? Ho studiato così tanto, buttare è brutto. Allora, carissimo, tu hai cominciato però con il teatro. Dopo l'Accademia hai lavorato con persone come Visconti, no? Sì, per ho lavorato con Visconti e con uno un po' Ettore Giannini. Ettore Giannini, il famoso Carosello napoletano, che era uno straordinario direttore di doppiaggio. Ed è lì che hai cominciato allora? Come è stato startup? Allora, in teatro io ero con... c'erano dei nomi importantissimi in questa cosa fatta con Visconti, c'erano anche... Sì, all'epoca c'erano solo gente con l'Empaz, parliamoci chiaramente. C'era gente che aveva dei contributi seri. Sì. Dai. E lì c'era il grandissimo... attore e doppiatore Nando Gazzolo, che venne da me e mi disse tu vuoi fare doppiaggio? E io dissi ma non so manco cos'è, che cosa. Bene, allora uno di questi giorni ti faccio venire in studio e vediamo un po' se lo puoi fare. Grande Gazzolo. Invece un'altra persona molto più semplice di Gazzolo era Renzo Palmer, straordinario anche lui. Sì. È venuto da me e mi ha detto Alamo, la Monica mi chiama Alamo. Alamo, senti, martedì mattina vieni alle 8:30 alla Fonolimpia. Dico, fa che? Fai in turno doppiaggio con me. Alla Fonolimpia? Alla Fonolimpia. Non c'è la Fonoroma ancora? No, la Fonolimpia. No, la Fonoroma c'era a Piazza. C'era. Ma lui lavorava con la SAS. La cosa divertente è stata che quando ho finito per 6:30 mi ha detto, tu mi capisci subito, forse il pubblico che ci ascolta... ma il programma a decifrarlo. A decifrarlo. Mi disse... allora, qui hai finito, va su dall'Arnaud, devi fare un altro turno. Quindi il primo turno della mia vita, ne ho fatti due. Bene, bellissimo. Hai fatto già, hai inventato il doppio turno praticamente. Poi con Fede Arnaud, che è un'altra grandissima. E con lei, forse, con lei è Mario Maldesi. Mario Maldesi è importantissimo nella mia vita perché mi ha diretto nel laureato. E poi ne parliamo di tutto questo. No, il laureato è divertente questo fatto, perché io ancora era da 2 anni che facevo il doppiaggio, quindi ancora non ero conosciutissimo. Lui vede questo film e questo tipo strano, curioso, e pensa di farlo fare a me. Invece c'erano dei nomi importanti, certo. Poi soltanto da 2 anni lo facevo. E quando gli dicevano chi lo fai fare quello, il laureato, il Dustin Hoffman, lui dice ho l'asso nella Monica. L'asso nella Monica. Beh, bello che hanno rischiato tutti su quel film. Mike Nichols Dustin Hoffman, che era l'antieroe, certo. Brutto, piccoletto, certo. Doveva essere Warren Beatty, certo. E lui ha detto no, non mi va di fare questo film, non mi piace, ci ha visto lungo. E da lì è cambiata la storia del cinema. Sono perché hanno chiamato l'antieroe e venne questo è piccolo. È cambiata anche brutto. La mia storia, perché io per anni dicevo lì... quello che aveva doppiato il laureato. Ce l'abbiamo, allora lo volevo mettere dopo, però visto che ci chiudiamo questo blocco, andiamo in pubblicità e torniamo immediatamente. Chiudiamo con Gino La Monica sul grande Dustin Hoffman nel bellissimo film di Mike Nichols, Il Laureato. Prego. Benjamin. Sì? Io adesso mi spoglio, va bene? Certo. Devo. Voglio dire, devo star qui. Mi dica lei che cosa vuole che faccia. Perché non guardi? Oh, certo, grazie. Mi dai una stampella? Cosa? Una stampella. Oh, sì. Legno? Cosa? Di legno o di ferro, ci sono tutte e due. Va bene, una qualunque. Ok. Grazie. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio? Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh, no, no, signora, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... santa pazienza, ma se l'immagina i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui, in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea, signora, ma santa pazienza. M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio. Hai paura di me? Oh, no, non è questo il punto. Senta, e se invece facessimo qualcos'altro? Voi Voice Anatomy. Abbiamo chiuso la prima parte con Gino La Monica, sta ancora qui ovviamente, sono le 14:46 primi e 43 secondi, non perdetela. Arrivano tanti complimenti, anche i saluti per Roberto Napoletano, raccontando che la radio ha molti pregi, eccetera, eccetera. Auspico sul sito un tasto per i suggerimenti. Va bene, Gino, sei fantastico. Caro Gino, c'è un monologo teatrale o cinematografico che ami particolarmente? Vedi, loro si sostituiscono, sono degli radioascoltatori straordinari. Sono veramente tridimensionali. Io non ho dato neanche il numero di SMS, ma lo sapete perfettamente. 349-238-6666. Io colgo l'occasione anche per salutare tutti i tecnici di Milano, tutti, la redazione, sono stati straordinari, che domenica scorsa sono andati in diretta da Milano e ho scoperto un altro bellissimo mondo di Radio 24. Purtroppo c'è l'altra tecnica del suono, che è Valeria, che rispetto a Valerio cambia soltanto una lettera vocale finale, ma sempre romana e romanista. Qui ho continuato questa tradizione. Oggi c'è Alessandro, c'è Gaia, c'è la nostra capo progetto Alessia Navarro e l'autore Mauro Meconi, che oltre ad essere un autore è un attore straordinario. È sempre Gino La Monica. Torno su di te, caro Io Gino. Io torno un attimo, se mi permetti, sul laureato. Certo. C'è un piccolo aneddoto. Nel 2010 io ho doppiato un film, doppiavo Steve Martin. Sì. Con un film è complicato. Abbiamo tutto, anche quello ce l'abbiamo. Sai, complicato, dove ho posto in Martin. E all'interno del film Meryl Streep fa vedere ai nipoti due scene del laureato. Era una domanda preparata benissimo da Mauro e tu me la anticipi. Allora, nel 1900... Ma allora siete bravissimi. Nel 68 doppiasti il laureato. Ma qui ti ho detto, c'è gente che ha le cosiddette, insomma, parlo di Alessio. Complimenti ragazzi, accide. Questa non me l'aspettavo proprio. Guarda, leggila. Me l'ero preparato. Leggila un attimo, leggi questa domanda com'è fatta. Io sono soltanto un veicolo vocale. Nel 68 vocale. Doppiasti il laureato, nel 2010 doppiasti Steve Martin nel film È complicato. All'interno del film c'erano due vecchie scene di Il laureato, sempre doppiato da te. Probabilmente l'unico caso nella storia del doppiaggio. E allora, tu capisci, però. Complimenti bene a tutti, bravissimi. Ma no, ma sai, quando io uno pensavo si di raccontare, ma figurati se lo sanno. Le trasmissioni vengono bene, questa devo dire sta avvenendo veramente bene grazie all'impegno che c'è tridimensionale da parte di tutto il cast, perché veramente si sta aprendo un mondo poi sulla voce grandissimo, a parte l'attore, il doppiatore, il regista, sicuramente i cantanti, ma ci sono vocologi, l'ipnotisti, medici, chirurghi del cavo faringeo e laringeo, chi insegna le voci estreme. L'altro giorno abbiamo parlato con uno psichiatra delle allucinazioni uditive, per cui il mondo della voce è veramente ricco. E poi si possono fare dei tutorial interessanti per far allenare la gente a casa e capire che cos'è questo strumento chiamato voce, che è all'interno, è un nostro strumento a fiato. Soprattutto devono leggere quello che leggono ad alta voce. Assolutamente. Noi faremo da quest'altra stagione, a settembre, mi auguro di riuscire a aprire e allungare, facendo proprio dei tutorial per le persone. E il mio sogno è quello che entri nelle scuole, dalle scuole medie in poi, proprio lo studio della voce e dell'italiano, visto che si studia perfettamente inglese, francese, tedesco, perché non l'italiano, ma non soltanto la letteratura, l'italiano. Mi posso proporre subito? Ma assolutamente sì, ma scherzi, avremo spero presto anche un intervento del ministro, che mi auspico succeda prima che chiudiamo quest'anno. E allora, hai visto, la domanda è bellissima, nel senso che tu hai fatto una cosa straordinaria, hai doppiato un film dove c'eri anche tu all'interno del film. Il bello è che passati 42 anni, quindi nessuno se n'è accorto, tranne due ragazzi nella versione privata che avevano visto Il laureato qualche giorno prima, e uno ha detto all'altro: au, ma questo è Gino. E infatti ero io anche nel laureato. No, è quello, poi lui è un attore straordinario, Steve Martin è un attore a cui io particolarmente mi ispiro tantissimo, mi piace da morire. Sì. È serio, mi dispiace che lavora poco. È vero, dovrebbe lavorare un po' di più. Straordinario, che mi piace molto. Senti, io da quando sto qui che sto pensando, dimmi, come fidarmi per salutare alcune persone. Si fanno così gli ospiti? No, gli ospiti sono liberi. Questa è una radio libera, come le radio quando sono nate. Nel senso che uno può dire quello che vuole, nei limiti ovviamente consentiti da una legge morale. Ma certo, non si può bestemmiare, le parolacce c'ha la sdoganate l'amico tuo che senti tutti. Anzi, amico anche mio, Giuseppe Cruciani. Per cui, che cazzo, traffico, il traffico fa culo, ce lo fa. Hai capito? Si può fare. Per cui di, ti sei segnato addirittura come quando si riceve un premio, Gino. No, no, quello è un'altra cosa. Ah, quello è un'altra cosa. Che vuoi salutare? E chi voglio salutare? Mia tua figlia, moglie, tua figlia. Mia figlia grande, Alessia. Anche io la saluto, Alessia. Mia nipote, che è Viola. Viola. Mia moglie, Emanuela. Mia figlia, Carolina piccola, sì, e soprattutto una persona, ma qui è un saluto molto interessato, sì, mia suocera Roberta. Che quanti anni c'ha? Non voglio sapere. È più giovane di me. Esatto. È per questo. Tua suocera è più giovane di te. I suoceri sono più giovani. Ma io voglio dedicare a loro una cosa. Allora sì, abbiamo certo, ancora tre minuti questo blocco, no? Tre poi tanto rimani cinque blocchi con noi, tranquillo. Allora, che vuoi dedicare? Sei portato la poesia da casa? No, no, vabbè, no, dai, non poesia. Che sono cos'è? Pochi minuti. Capiranno tutti che cos'è appena comincio. Allora, il numero verde, manca il numero verde, ci siamo anche noi del centralino. Sabrina, buon pomeriggio, hai ragione, scusami Sabrina, saluto tutti, anche voi. 800 24 00 24. Ciao Sabrina, buon pomeriggio anche a te. Domanda cattiva per Gino, senza far nomi, ma c'è qualche collega con cui assolutamente non ti piace lavorare? Ciao Vitto, vabbè, non si può dire, no? Queste sono cose che... fa il nome mio, fa il nome mio. Tu sei stato il mio direttore in anno domini. No, posso rispondere, non farò mai il nome, ma posso rispondere col sì, cognome. Sì. C'è. Ce ne stanno, se uno dice. Sì, ce ne stanno. È un ambiente molto sano, qualche... di gente brava, però insomma qualcuno va anche lì. Sei pronto per leggere questa cosa? Ma assolutamente. Vuoi sì, una musica di sottofondo? Ah, dura meno di due minuti? Sì, assolutamente. E allora, musica romantica per il grande Gio, perché una voce così elegante non può che avere delle note eleganti. Spero di dimostrare quello che ti dicevo prima sulla voce, che è la punta dell'iceberg. Ti prego. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aer dal voler portate? Cotali uscir dalla schiera veddito, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi, ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, Caina attende, che a vita ci spense. Brividi nel pomeriggio di voi sanato. Almeno 24 brividi. Ma che bello. Ma, no, no, bello, bello. È bello perché, vedi, la preparazione è questa. La semplicità. Tu adesso hai utilizzato la voce giusta con un microfono. Se la avessi fatta su un palcoscenico, sicuramente l'avresti emessa diversamente, ah, certo, la voce, portandola di più, eccetera. Ma senza perdere questo modo, questa emozione. Moda, per cui ci sono tanti modi. Tanto è vero modi, che per me non esiste recitazione teatrale. Risentiti nel podcast. Quando mi dicono si sente il doppiaggio, io dico non mi dite si sente il doppiaggio, ditemi che recito male. Sì, sì, esatto. Vi prego, ma non mi dite si sente il doppiaggio, perché non esiste il doppiaggio. Esistono gli attori bravi e gli attori non bravi. È come bravi, la comicità, è una comicità moderna. Ti fa ride? No. Allora fa ride. Fa ride o non fa ride? Ciao Pino, un saluto a te e al maestro Gino La Monica, uno degli esempi della grandiosità del doppiaggio e del teatro italiano, Dino, e non solo, anche della televisione, perché prima parlavamo con Gio, hai fatto praticamente tutto e con grande talento, sei passato dal talent qui dal quiz Il Sicario con l'amico Jocelyn, con cui ho fatto tantissimo anch'io. Dobbiamo andare in pubblicità, Alessandro, scusami, a tra poco. Voice Anatomy è appena cominciata. Inizia la settimana della moda, il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale, nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Voice Anatomy. Non vedevamo l'ora di rientrare in diretta in studio con il grande. Ma di che Cino parliamo? Di che parliamo? Perché hai cambiato pure voce. Ma messaggi tantissimi, cioè, basterebbero questi per fare tutto il resto della trasmissione. Grande attore a differenza tua, Pino. Anche se un film in lingua originale è sempre meglio, va bene, qualcuno. I tuoi audiolibri sono meravigliosi, spero che si rivolgano a me stavolta. Ma io ne faccio tanti di audiolibri. E allora a te, sicuramente. Benigni non è nessuno in confronto alla tua lettura della Divina Commedia. Un grande abbraccio a questo vulcano d'uomo, Gino, da parte di Roberta. Perché non ricordare anche la grande Anna Miserocchi, voce strepitosa di Anne Bancroft? Assolutamente. Bravo, ma noi ricorderemo tutti strada facendo. L'ho adorata, io ho fatto anche del teatro con lei, con Garinè Giovannini, ho fatto Assurdamente vostri, 1974, in tournée con lei, donna strepitosa. Che bella questa cosa, grande attore a differenza tua, perché mi piace leggere i messaggi anche cattivi, nei miei confronti sono straordinari. Cattivi, sanno che sei un uomo di uno spirito incroyable, direbbe un francese. Almeno l'autoironia per me non è una macchina. Il doppiaggio è un'arte stupenda e voi con le vostre splendide voci ci accompagnate nel vivere le emozioni dei film. Perché non vi unite e cercate di ridargli valore come una volta? Da amante del doppiaggio mi rattrista sentire certi discorsi al giorno d'oggi riguardo al doppiaggio e vedere che non viene valorizzato come dovrebbe. Un saluto a Giacomo, vostro grande fan. Ma caro Giacomo, c'è una bellissima cultura invece del nostro popolo. Il doppiaggio, lo diciamo sempre, si doppia in tutto il mondo, a parte i paesi anglosassoni, addirittura in Cina in sette lingue diverse, per cui siamo riconosciuti come i migliori, ma non è soltanto il doppiatore, ma anche chi adatta il linguaggio del film, i nostri tecnici del suono, i nostri fonici di mix, i nostri assistenti e i nostri direttori. Qualche volta il doppiaggio si perde nei meandri della corsa e della velocità, ma questo è un altro discorso, riguarda un po' le distribuzioni e le case produttrici. Bene, veramente ci ha fatto venire un brivido lungo un pomeriggio, era molto notturna quella cosa, però è bellissima. Ogni tanto poi Gino mi ricorda durante le pubblicità, ma ti ricordi che, ma Gino, qui sono preparatissimi, c'è stata una cosa. Sì, siete incredibili. Però voglio sentire un altro pezzo tuo, ce ne abbiamo tanti, per cui un Voglia di tenerezza, ti ricordi chi doppiai, per esempio quell'attoruncolo? Sì, quell'attoruncolo. Come si chiama? Jack Nicholson. Jack Nicholson, ce l'ascoltiamo il tuo Jack Nicholson in Voglia di tenerezza, altre lacrime. Vai. Le dispiacerebbe tenere il volume un po' più basso? Mi scusi, ma non riesco a sentirla! Abbassi il volume! Rispetti i diritti degli altri esseri umani! Venga un po' più vicino! Ehi, lei è nella boscaglia! Non sento una parola di quello che dice! Venga qui! Come si chiama lei? Aurora? Sì. Lei vuole essere scioccata? No, non ci tengo affatto. Cosa c'è? Beh, noi dobbiamo fare una cena della NASA alla Casa Bianca e una cena di cosmonauti, insomma, noi altri. E, io non so con chi andarci, perché tutti quelli con cui ho volato, ecco, quelle carogne delle loro mogli mi sbranerebbero vivo se mi presentassi con una delle mie solite ragazze. Non conoscevo nessuna, un po' passatella, e così ho pensato, inviterò la mia vicina di casa. E l'hai fatto. Sì. La bravissima Maria Pia Di Meo che abbiamo avuto ospite, mi sembra che era lei, no? Non era lei, chi era? No. Lei, chi era? Oddio, non l'ho riconosciuta allora. Gabriella Genta. Gabriella, è vero. Sì. Sembrava Maria Pia a un certo punto. Incredibile. Aveva una voce freschissima, sì. Gabriella Genta. Ah, una voce. Sì, tutto. Sì, cioè, è lotta insieme a noi. Sì. È ancora qui. Pino, fai parlare anche i tuoi ospiti e non dire dopo con l'ho chiusa, Arturo da Roma. Ma non si dice dopo, scusa? Dopo, certo, dopo, perché devi dire dopo. Arturo, io hai ragione, faccio parlare i miei ospiti, lo accetto come consiglio, ma dopo certo, è chiusa la... Vengo dopo, non vengo dopo. Allora, Arturo, uno a uno, uno c'ha ragione te, l'altro c'ho quello ragione il topo. Io vengo dopo col topo, hai capito, l'avevo chiusa la cosa aperta, vengo dopo col topo. Senti, parliamo un po' di televisione, perché anche lì insomma tu sei un attore, no, non sei soltanto la televisione, la fiera delle vanità è il tuo primo sceneggiato televisivo. Sì. Lo sappiamo, 1966, hai capito. oltre a una breve apparizione nel Conte di Montecitorio. Sì, quella lì proprio così. Ero ancora in accademia, bisognava chiedere il permesso, scusi, due giorni. Due pose. Dire, due pose, per favore. Renzo Tian c'era allora accademia. Insomma, guardi, sono poverissimo, ho bisogno di questa. Insomma, alla fine me l'ha concesso e ho fatto queste due pose. Ed è rimasto che io ho fatto il Conte di Montecitorio. Certo. Non è vero, sono passato da lì, sono passato un attimo di fronte alla telecamera. Ma era quello con Andrea Giordana? Sì, quello lì. Anche lui era giovanissimo, sì. Mi sembra lì. E cosa? No, mi piace molto ricordare il mio maestro di recitazione, che era Sergio Tofano, che faceva la Matefaria. Allora, vabbè, questa è una cattiva idea, però poi è diventato bravissimo, ormai un grande attore. Ma allora non è che diceva questo bellissimo Giordana. Senta, signor Tofano, ma com'è Giordana? E lui disse: un disastro. Era ancora giovane Andrea. Era giovane, poi è diventato bravissimo. Infatti ha dimenticato questa cosa qui, perché era ci sta all'inizio, ci sta nei calci. Ma poi era di una bellezza impressionante, quindi solo lui lo poteva fare, diciamo. Però già funzionava rispetto a poi alle fiction di adesso, no? Gino? È vero, hai detto una cosa molto bella. Rispetto alle fiction di adesso, lui poteva essere un disastro, come diceva Toro, ma in realtà era già bravissimo. Sì, no, senso, non voglio fare tutto a nerba in fascia, ovviamente ci sono molti colleghi bravissimi, degni di nota. Successi, assolutamente. Sono un po' fuori. Si devono sentire colpiti chi non si sente quando recita, insomma, sì. O non chiudono, o non si sentono le finali, o soffiano, o gridano. Ma c'hai il cane qui in studio? No, era forse un collega. E poi, insomma, subito dopo questo, che è successo, Gino? Dopo la fine della metà, tu sei stato anche eletto come premio miglior attore televisivo dell'anno nell'81. Che è successo nell'81? Che hai vinto sto premio? Io dopo 30 anni di televisione non me l'hanno mai dato. Tu nell'81 l'hai già vinto. Ma perché lavoravo con il grande Anton Giulio Maiano, che mi piace ricordare, l'antesignano, quello che ha inventato lo sceneggiato televisivo, che oggi lo imitano tutti, ma tutti se lo l'hanno dimenticato. Era l'eredità della Priora. 5 mesi a Napoli a fare questa cosa qui, e io presi il premio agli inizi dell'anno dopo come miglior attore italiano. Così. E andai a prendere questo premio a niente po' di meno che all'Ariston a Sanremo. Daniele Piombi mi diede questo premio. Il vero presentatore per antonomasia. Sono contento. È bello. Beh, Daniele Piombi vorrà presentare proprio il premio. Il premio. Caro Gino, quale monologo hai portato al tuo primo provino in Accademia? Ci domandano. Sono passati quanti? 54 anni. Come provino in Accademia è un pezzo del Cyrano di Bergerac. Però io, quando dovevo leggere qualcosa, perché io ci tengo molto alla lettura, quando dovevo leggere qualcosa leggevo sempre, e tuttora quando mi chiamano a fare degli stage per insegnare come fare questo mestiere, io così presuntuosamente mi metto, non mi piace la parola insegnare, cerco di passare il testimone alle altre generazioni. Io purtroppo ce l'ho nel cognome, per cui c'è poco da fare. Ma scusa, ti sei mai chiesto in inglese come sarebbe? Sì, Joseph, sì. I teach. Esatto, Joe I teach. Joe I teach è male. O Pine I teach. Come Pine I teach. Faccio la scommessa di Chekhov, che è una cosa bellissima. Non l'ho portata fortunatamente, perché dura almeno un quarto d'ora, quindi stai tranquillo. No, guarda che sarà bellissimo. Invece riuscire a riportare anche il radiodramma radio, magari, che è affascinante, sono come gli audiolibri, cioè ti accompagna, pensa a un bel viaggio in macchina. Noi abbiamo fatto tanti audiolibri con una società che si chiama Libri Vivi, e naturalmente non abbiamo guadagnato neanche una lira. Sì, non è molto ricco, io lavoro con Lemons, per di 100, dirvi tutti 120, 130 abbiamo fatti, e tutte quante fatte come si faceva la radio un tempo, sceneggiato con la musica, i passi, la musica sotto. Ora invece sto leggendo dei libri, perché c'è un'altra società che vuole che io legga totalmente il libro dall'inizio fino alla fine. Sì, quello è bello. Io ti ripeto, abbiamo anche ospiti la Emons, con i quali ho fatto il libro della giungla, eccetera. Ma è una cosa affascinante. Pensa, oggi avremo fra gli altri ospiti degli attori straordinari, perché avremo anche Silvio Muccino, eccetera. C'è anche il presidente dell'Unione di Roma, il presidente del Lazio, dell'Unione Cechi e Ipovedenti, per cui la voce, per i quali la voce è fondamentale. Quindi è un viaggio affascinante. Tornando alla cosa quello. Che dicevo sulla voce come punta dell'iceberg, io credo che non soltanto bisognerebbe leggere ad alta voce le cose, ma bisognerebbe leggerle come se l'ascoltatore fosse sempre non vedente, sì. Per cercare di dargli quel valore importante, cercare di dargli lo stato d'animo, questa è la cosa, e trasportare lo stato d'animo nell'orecchio di chi ascolta. E questa è una cosa di una bellezza. Sì, si dice anche quando si fa teatro, recita per quell'ultimo, nell'ultima Bravo. Fila, che non ci sente non e ci non ci vede bene. Recitare recita per quello. Sempre. Che non è un'offesa ovviamente a chi ha delle deficienze sensoriali, ci mancherebbe altro. Proprio il contrario. Un'altra cosa bellissima, a parte mi voglio sentire, con te il tempo sta volando, fra 5 minuti finisce questo blocco, ma tu ci sarai ancora per altri 20 dopo, per cui tranquillo. Che bello. Però il fatto di aver dato lo startup professionale a degli attori americani importantissimi, sono entrati nella leggenda come Dustin Hoffman, che poi è doppiato magistralmente anche bene dal grande Ferruccio Amendola. Straordinario. No, per carità. No, dico una cosa velocissima, sì, spero sì, di essere in tempo. Sì. Molti mi dicono questo fatto, no? Dopo, perché poi non hai fatto L'uomo da marciapiede? Lo stesso direttore mi disse questa frase qui: Sigino, devo fare un film dove Dustin Hoffman è tutta un'altra persona. Certo. Deve essere uno sporco. E cercherò di farlo fare con un dialetto, perché in originale è un portoricano e si chiama Rico. E disse: a te non te lo faccio fare il provino. E io dissi: hai perfettamente ragione. Chi era? Sì, un uomo da marciapiede, il film. Un uomo da marciapiede, e fu il primo film di, importante di Ferruccio. Di Ferruccio, però. Se mi dite che sapete anche questo, io mi alzo e me ne vado. Va bene, dillo. Ma il secondo film, il terzo film di Asana si chiama John e Mary. Avete fatto lo stesso provino tu e Ferruccio Amendola, sì. Per lo stesso ruolo. Esatto. La domanda è già pronta. Volevo arrivare a quello. E vatti lì, c'è Mauro Meconi e Alessia che si guardano e dice: vuole anticiparci il lavoro, ma è possibile. Però, a parte questo... Rivisio il provino! Hai vinto tu il provino? Sì, che film era? Scusa, mi sono sfuggito. John e Mary. Ah, John e Mary, lui certo. Lui è Mia Farrow. E Mia Farrow. Invece voglio andare al volo su Richard Gere. Richard Gere tu l'hai tenuto a battesimo. Sui due film forse più importanti. No, diciamo vabbè. Che i film che gli hanno dato il successo. Vabbè, American Gigolo e Ufficiale Gentiluomo. American Gigolo e Ufficiale Gentiluomo, che fu invece diretto da Renato Izzo, un grande. Un nome tutelare del doppiaggio. Assolutamente. E noi abbiamo un momento di American Gigolo, dare piacere alle donne, che è anche il tuo mestiere, infine, tutte le femmine che certo. C'hai per casa. Sentiamocelo questo Gino La Monica sul bravissimo Richard Gere, American Gigolo. Ma come fa Julian? Questo pomeriggio con Mrs. Jervy. Poi stasera al country club. Ma come fa ad andare con tutte queste donne? Eh? Vorrei che lei non si impicciasse della mia vita privata, Sunday. E non infastidisse i miei amici. Oh. Facciamo così. Lei lascia in pace le mie clienti e io le do qualche consiglio per agganciare le donne, ok? Cioè... Per cominciare, lei va in giro vestito di merda. A questo si rimedia, non c'è problema. Ma è la faccia. La mia faccia? La faccia, una brutta faccia. E anche il corpo, che cos'è? È malato? Ha problemi con la schiena? Sembra una scimmia come si muove. Andiamo indietro, su. Indietro. Le spalle. È la mascella. La faccia funzionare, si eserciti. No, tenga moscia, bella rigida. Rigida. Sì. È disposto a venire con me per un confronto? Certo, perché no? Ma non lo annoia questo, Julian? Cosa? Quello che fa. Dare piacere alle donne? E perché? Dovrei sentirmi colpevole? Certo, non è legale. Quello che è legale non è sempre giusto. Le leggi le fanno gli uomini e a volte sbagliano. O sono stupidi. O gelosi. Dunque, mi volevo riferire a Richard Gere, in base... Noi abbiamo sentito alcune cose che ho fatto io e qui la botta di presunzione, che spero che Pino, con lo suo spirito, mi attenuerà subito. No, vai, esaltati. Quando Richard Gere ha detto una trasmissione, parlando dei film, in quel caso non ero io, ma comunque parlando dei film in cui viene doppiato, dice: ma questo attore qui mi pare che abbia detto una cosa del genere, però questo doppia tanti altri, per cui io sono uguale a tanti altri. Beh, voi avete sentito Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Richard Gere, ma vi è veramente sembrato che fosse sempre la stessa persona? No, perché quando noi doppiamo, se siamo bravi e ci adeguiamo ai personaggi che facciamo, cambiamo i ritmi di recitazione, che sono quelli che non ti fanno individuare come lo stesso attore. Sul laureato tartagliavi leggermente, un giovane ancora indeciso, sicurezza, sfrontatezza nel Richard Gere. una ironia rampante di Jack Nicholson. Sapete che mi sto chiedendo, dice una persona, se fossi la moglie di Gino, ma come farei a litigarci? Una voce così è da brivido. Complimenti a voi, dice Carla. Chi non ama il doppiaggio lo denigra ingiustamente, dovrebbe sapere che esiste la possibilità di mettere in originale e togli i sottotitoli. Carlo, certo, il solito traduttore di latina che è molto attento. Ciao Pino, questo è un augurio, noi glielo facciamo. Stasera concluderò un anno di laboratorio teatrale avente con il tema Il Guerriero, inteso come colui che tutti i giorni lotta contro i propri ostacoli. Un vostro augurio darebbe a me e al mio gruppo una bella carica. Siamo il gruppo Core Canè, laboratorio di scrittura di scena di Viserba di Rimini. Grazie e saluti dal vostro fan Vittorio. Beh, bocca al lupo. Ciao Vittorio. Bocca al lupo a te e al tuo gruppo. Chiunque ama questo mestiere sicuramente è degno del nostro appoggio. Allora, va bene, rimanete con noi. Ci distacchiamo pochissimo da voi e torniamo subito con Gino La Monica e Voice Anatomy. Anatomy. Neanche il tempo di salutarvi che già torniamo, avete sentito? No, qua. È bellissimo, arrivano veramente tanti messaggi, devo dire che ci volete veramente bene, la trasmissione e la radio stanno godendo di un momento veramente di grande gioia, grande compagnia, poi sì, siamo sempre in macchina. Ma io ho una radio che parla. Sì, sì, la musica la senti a casa, metti pure il disco in macchina. Io voglio sentire parlare, mi fa compagnia, fa vera. Compagnia. Buongiorno, una volta potresti invitare la voce di Chai Yen? Di cera? Che una volta. Ah, di cera, cera senza voce. Chai Yen di cera una volta al West. È uno strano tipo, quando deve parlare suona e quando deve suonare parla. Saluti Gianni Nevi da Ascoli Piceno. Non mi so bene. Non l'ho capito. Scrivela più chiara, ma potete anche telefonare se volete. Ovviamente non volete cimentarvi con un dialogo con il nostro Gino Lamore. C'è una telefonata? No, c'è il numero, sì, 800-24-0024. Sì, un'altra cosa bellissima a proposito del grande Jeremy Irons, invece, un altro attore che tu hai accompagnato spesso e volentieri tuttora nei Borgia. Tutto sommato, devo dire, sì, nei Borgia... Ti assomiglia molto a Jeremy Irons, sia fisicamente, devo dire, la tua eleganza fisica, tu assomigli molto alla tua voce. Oh, non Madonna tutti. Santa, che no, no, assomigli molto alla tua voce. Poi vedete la foto sul nostro sito. Mano, su amore, Facebook. Amore, c'è, hai sentito che ha detto vero? È vero. Su Voice Anatomy, il nostro sito, mi sta dicendo qualcosa Alessia Navarro tramite interfono. Dimmi, io sto in attesa, però ovviamente devo parlare perché la pausa non posso lasciarla. Allora, volevo dire, Jeremy Irons, straordinario attore. Beh, io ti devo dire che Jeremy Irons è l'attore che a me ha fatto più piacere doppiare. Già dal 1980, che era La donna del tenente francese. Ma, di Harold Pinter, signori, guardate quel film, recuperatelo vi prego. Meraviglioso, lui e Meryl Streep, una storia veramente straordinaria, scritta da che Dio. Che tra l'altro su io, doppio piano. Che io l'ho anche diretto come doppiaggio, quindi ci tengo particolarmente. Tu e Maria Pia, per cui... No, in quel caso lì feci dei provini. Oh, niente, io non riesco a beccarla oggi, Maria Pia. Anche lì era bellissimo, mi ricordo un gran doppiaggio, per cui sì, lo dirigevo, per cui grazie. No, straordinario. No, poi ho doppiato nel The Mission. E siamo a Maldesi, ritorno con Maldesi del laureato. E per The Mission posso. Vedi che però non lo dire tu, lo dico io. No, non lo dico io. Hai doppiato Jeremy Irons. Sì. E quanto tempo fa hai recitato di nuovo in Mission, in inglese, in un teatro da oltre 3.000 posti, ma dove? A Seul. Sì. Ma che emozione è stata? Cioè, una cosa impressionante. Cioè, tu sei andato a Seul a recitare Mission in inglese. Perché doveva essere una compagnia che doveva andare in giro, in tour, per almeno 2-3 anni e anche l'Italia, per cui eravamo tutti attori italiani che recitavano in inglese e poi saremmo andati in Sud America, poi in Giappone. Doveva essere una cosa impressionante. E poi cosa è successo? Siamo stati lì 40 giorni, abbiamo avuto un discreto successo, anche se non erano più di 1.800-2.000 spettatori a sera, ma in un teatro di 3.000 posti era veramente impressionante. Poi cosa è successo? Una cosa molto divertente, tanto non si fanno nomi, ma alla fine di questa prima cosa qui non hanno ripreso. Non abbiamo ripreso lo spettacolo perché il produttore coreano era scappato coi soldi. No. Buongiorno, salve, come va? No. Allora pure i produttori coreani assomigliano a qualcuno che conosciamo. Hai capito? Grazie, ciao Gino, ho 25 anni e ti stimo moltissimo per espressività che rende nei personaggi che doppi. Sono di Portici, anche tu sei di Portici, vero? La cultura napoletana ha quindi influenzato il tuo percorso artistico. Un abbraccio da Claudio Forte, sì, sicuramente sì. Beh, credo che ti abbia influenzato. Ma assolutamente sì, su. Poi tra l'altro Portici vicino a San Giorgio a Cremana, quella era cosa, Massimo Troisi. Adesso c'è la sorpresa. Oddio. Tu non ami recitare, siccome tutti gli altri doppiatori mettiamo alla prova facendo l'opposto di quello che sono o mettendoli a prova. Tu, ma io veramente non so cosa sono, quindi... No, tu non ami recitare nei dialetti, lo so. Oddio. E allora questo è il dialetto, è un momento del libanese in Romanzo criminale che Mauro Megoni ha fatto, non solo qui come autore ma l'ha fatto come attore Fiero Locchio, e allora ha buttato giù questo monologo del libanese in romano per cui tu lo devi recitare in romano come scritto soprattutto. Io faccio solo una battuta qui. Sì. Mi avete messo veramente in difficoltà. Lo so, per quello. Vabbè, c'hai un'accoglienza e un amore spropositato. Questa è ironia. Non lo leggere prima, vai, vediamo che succede. Sì. Pure la musica giusta. Aspetta che ti viene a riprendere qualcuno, però. Vieni a riprendere, aspetta, perché lo mettiamo poi su Facebook di Voice Anatomy e poi perché c'è la sorpresa abbinata a questo tuo momento. Attenzione. Ecco Mauro che viene con... il telefonino è pronto, è partito, vai Gino. Questi sono 200 milioni. A Buffalo, da quant'è che stai a sbava per quel Rolex in vetrina da Bedetti? Ah dai, guarda roba nuova, se no non eri Erdanti, eh? Scrocchia, figa, un po' di coca, un brillocco per Angelina. Poi però, sapete che succede? Succede che il Rolex si ingrippa. E guarda roba, te lo devi cambiare perché passa di moda. La figa si asciuga per mancanza di liquidi. È tempo 6 mesi, un anno. Stiamo di nuovo al palo. Allora venite a me e faremo un altro colpo. Magari ci va bene, magari finiamo al gabbio, magari sottoterra. Io dico stecca para per tutti. 20 milioni e il resto lo reinvestiamo in un progetto comune. Una cosa in grande, droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come la mafia in Sicilia. Come la camorra a Napoli. A Libanè, ma qui non stiamo a Napoli, stiamo a Roma. E quella se dovevo via... Quello è il progetto comune. Piamose Roma. E adesso però vai di là e vai a riprendere quello che succederà, perché al telefono abbiamo un amico. Aiuto. Un amico che può aiutarci ancora di più. Siate buoni. Pronto, libanese, sai? Pronto, sì, ci sto, dimmi tutto. Secondo te è andata bene? Ha detto bene. Com'era sto monologo? Da studia, però se può fare qualcosa di buono, dai. Tu pensi che possa far parte del gruppo? Perché lui è il biancone, non so come lo potremmo chiamare. Ma sai che c'è? Che a me mi hanno ammazzato, mi serve un erede, capito? Capito come? Secondo me è perfetto. C'ha 72 anni, potremmo chiamarlo il prostata. Francesco Montanari al telefono dall'altra parte, l'originale. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Scusami, ma me l'hanno imposto. No, avevo la pistola di Pino puntata sulla tempia, se non la facevo. Hai fatto la Divina Commedia, hai raccontato tutto di quello. Ma l'hai fatto bene all'ultimo. Ho capito piano piano che era. Francesco viene anche lui dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Dai, un attore. Ma certo, un vero grande attore, riesce a fare poi personaggi così. Ma allora deve aver conosciuto mia moglie. Non lo so, io spero di no, perché so. Dipende. Fra Emanuela Giovannini. Come no? Assolutamente. Diplomata regista all'Accademia. Sì, assolutamente. Ah, vedi? Hai capito? Amo trovato un filo comune. Non è male, non l'hai fatto male. Tu rimani un po' con noi, ovviamente. Adesso andiamo avanti per questo blocco. Quando finisce questo blocco, per dare i tempi anche ai nostri amici. C'è tempo ovviamente. Questi giovani attori, parlavamo prima di attori che superficiali, che ingolfano il mondo del cinema, della fiction soprattutto, che non hanno coraggio di andare a teatro. Invece ci sono altri attori che parlavamo, che invece amano. È una tragedia. Che fanno questo mestiere davvero. E uno di questi è Francesco, che ho avuto il piacere sì di conoscere come attore, ma anche come uomo. Ed è un attore bravissimo, perché il suo teatro non sì, lo fa sì, certo, ma io romano. Lo sapevo, ma mi avevano parlato molto bene di lui, in effetti. E tu Francesco, insomma, poi giovanissimo, perché Francesco, io quando l'ho conosciuto ho detto, ma sei così giovane? Perché in televisione, il Romanzo criminale, sembrava fosse un uomo consumato. Hai capito? Invece è dell'84, e quella è l'interpretazione. Se sta consumando lentamente. Alla periferia, dai. Esatto. No, non è così. Per cui tu l'hai fatta l'Accademia anche tu negli anni 90, perché che cos'è? Fine anni 90 l'Accademia, sei giovanissimo. Guarda, credo. No, in realtà in realtà credo 2003. 2003. Corrisponde, corrisponde. Poco tempo fa, sì, pochissimo. 2006, sì. Beh, dove sei? Siamo nel 2016, in effetti. E poi quello è stato il tuo startup e con, hai cominciato quello. Poi parleremo con te anche nel blocco seguente, Francesca, soltanto per avvicinarti di più alla carriera di, del nostro amico. Dobbiamo trovare un punto d'incontro. Punto d'incontro non è ancora il doppiaggio, perché ancora no, non hai avuto esperienza nel, nel doppiaggio, no, Francesco. Assolutamente, anzi, ho molto rispetto per i lavori, penso che potete fare benissimo a meno di me, perché siete grandi doppiatori, quindi va bene così. Ma non è vero, perché poi il doppiaggio comunque, a parte sei giovanissimo, lo ripeto, ma il doppiaggio aiuta poi anche te a ridoppiarti magari in un film dove c'è bisogno. Infatti quando devo, quando succede ogni volta ho un terrore proprio a tanto. Ma infatti io volevo fare una scuola, una volta mi è venuto in mente, ma non una scuola per far entrare gente che entrino nelle file, nella schiera dei doppiatori. Una scuola per professionisti. Una scuola per professionisti, assolutamente, perché quando vengono a doppiarsi nel quel 10, 20, a volte 30% in cui sono costretti a ridoppiarsi perché una scena non è andata bene, perché c'era del rumore, perché c'erano le cicale, spesso si gira di stare sulle cicale e poi hanno grosse difficoltà, cominciano a tremare tutti, sono ansiosi. È perché è una tecnica complicata. È una tecnica, è, io dico fare una scuola per attori professionisti sarebbe la cosa che mi divertirebbe di più. Ma dillo e fallo, l'avete fatta già col gruppo 30, sì, avete tirato su degli uomini, degli attori doppiatori straordinari. Beh, Massimo Lodolo, ma veramente tanti, venuto Massimo Corvo, Gaetano Marcasia, sì, il povero Gaetano, certo, tantissimi. Non è male questa idea, Francesco, tu faresti parte della schiera dei professionisti. Ti piacerebbe? Perché impari a doppiare te stesso, quindi vai in sala e non sei uno col complesso di inferiorità che dice io no, ma tanto sono bravi questi, io non lo so fare. No, saresti in grado. Io sono pronto. Io vorrei farla, vediamo un po'. Lo metterò su Facebook e vediamo un po' se qualcuno aderisce. Ma sì, secondo me se ne parli. Insegnanti, io direi, ma per fare nomi poco conosciuti, direi Pino Insegno e Gino La Monica. Esatto, Gino La Monica. Quando manca in supplente posso essere io, ma solo il supplente. Senti, Francesco, tu rimani ancora un po' con noi nel blocco seguente. Voglio salutare Gino. Se Gino vuoi rimanere ancora anche nel blocco seguente con Francesco, ci alterniamo ancora 10 minuti. Sì, assolutamente sì. Piacere, ma figure, è un piacere stare con te. Francesco, possiamo rubarti altri 10 minuti, come vero? No, certamente. Mi raccomando. Dove ti abbiamo bloccato? Non c'è campionato. Forse c'è stato il modo GP, che è successo? Non tifo, non tifo calcio, quindi no. Ma non lo sapevo che tifavi calcio, ma come? Davvero non tifi calcio? No, Mauro Meconi, il tuo collega, mi fa un segno con la testa, no, non tifa, ero convinto. Sì, mi conosce bene, Mauro. No, è che non ho questa passione. Qual è lo sport che ami di più? Ma io seguivo lo sci. Però adesso è estate, capisci bene che... Sì, manca un po' di materia prima, sicuramente. Esatto. Allora, Franci, resta con noi collegato, anche Gino resterà qui a farci compagnia, un bellissimo duttico di attori, perché trittico sono tre, ma due sono un duttico. È duttico, certo. Com'è. È un duttico, com'è? E uno è un attico. Va bene così, a tra poco con voi Sanatomi, tra pochissimo. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, con me sempre Gino La Monica, in diretta telefonica l'amico, il bravissimo attore Francesco Montanari. Ci sei, Francesco? Ci sono qui. Arrivano tantissimi complimenti, oggi veramente ci stanno inondando di messaggi. Che bel duetto fra Gino e il bravissimo Francesco, eccetera. Ho visto Francesco Montanari al Piccolo Eliseo, bravissimo. Cioè, insomma, è una radio molto attenta soprattutto a queste realtà. Qui invece è una cosa per me e per Gino, avete entrambi due voci bellissime. Se nella vita di tutti i giorni ci fossero persone con queste voci sarebbe tutto più bello. Ci recitate un piccolo spaccato di vita, per esempio, se abbiamo il numero 24, salve, mi fa duetti di prosciutto con, eccetera. C'era un altro West che diceva che Cheyenne era interpretato da Jason Roberts, doppiato dal grande Carlo Romano. Grazie. Senti carissimo, io l'ultimo impegno è stato a teatro, anche tu sei come Gino, ti alterni, sei un esercizio di stile vivente, giustamente vai dalla fiction, passi per il cinema, tanti bellissimi film anche lì, e il teatro che non lasci mai, vero? Assolutamente, tra l'altro adesso sarò in scena, apriamo la stagione del Teatro Liceo. Ah, Che bello. A Roma, sì, cominciamo a fine settembre, per 4 settimane facciamo Glengarry, Glen Ross di David Mamet. Ah, americani, sì, americani. Sì, assolutamente, sì. Ah, sì, capoletto, vero. Sì, sì. Sarà una bella esperienza, abbiamo fatto 4 letture, io sono il più piccolo, poi c'è Sergio Rubini, Gianmarco Dognazzi, Roberto Ciufoli. Mi sembra di conoscerlo. Molto bene, molto bene. E Gianluca Coppi, insomma, è un che bel cast. Sì, sì, è un quintetto interessante. La regia sarà di Barbareschi. Bene, di Luca. Chi è che fa Al Pacino? Che poi non è la parte più importante. Lo faccio io. Ah, bella, è una partina così di stupida, fai. Sì, esatto. Sì, non è quella che è importante. No, esatto, esatto. Ma va bene, ma la gente tanto non conosce non perfettamente sa, il film. No, non è per quello, Francesco. No, no, dicevo no, è anche per che quello. Non è. Oh, no, lascia stare, dimentica quello. Quante volte l'hai visto il film? Guarda, difficile, in realtà sto cercando di non vederlo più, io l'ho visto anni fa, perché poi, sai, purtroppo si cade nell'errore di voler imitare qualcuno. Certo, certo. E una cosa, bravo. Invece no, voglio cercare la risposta di mi non piace. Farlo. Bravo. Lo vedrò dopo la prima. Però sì, ci sei, forse dopo l'ultima. Ci sei su quella parte, ci sta tutto, perché era un Al Pacino giovane, sfrontato, sì, nervoso, sì. No, un bellissimo test. Speriamo, mi dirai tu, quando verrai alla prima mi dirai. Parlerò male solo di Ciufoli, capito? Parlerò solo di quello, perché hanno preso un pelato, non si capisce, ma insomma non è giusto. Bello, un bel cast, c'è anche Jack Lemmon, faceva una parte bellissima. Chi lo fa Jack Lemmon qui? Sergio Rubini. Sergio. Ah, bene. No, ma devo dire che è bello ricco. Senti, ci ha raggiunto uno degli autori della trasmissione, che ormai segue questa trasmissione, che conosci perfettamente, il tuo un tuo gregario nella banda della Magliana. Ciao Francesco. Ciao Francesco, è sempre un piacere. Io Francesco lo stimo particolarmente, poi ho avuto la fortuna di e vivere con lui per un in paio che d'anni. Ah, ma è un outing questo, no, Francesco. Diciamo Mauro mi ha fatto da balia, capito? Sì, gli ho occupato il divano per un po' di tempo, è stato gentile che mi ha ospitato. Questo è come i veri attori, quegli americani che vivono insieme, chi dorme sul divano, chi per terra. È stato un momento molto bello della mia vita, devo dire la verità. Francesco è una persona di compagnia, poi è un attore che stimo molto e concordo sulla bellissima voce, perché Francesco forse la sottovaluta, ma ha una voce molto molto molto bella. Ma soprattutto la sa modificare in qualche modo. Vi fa un provino, scusa, scusa, Gino dirige. Guarda che punto. Non mi conviene, perché Franceschi vince tutti i provini, lo dico. Ma adesso tu non hai fatto Mauro doppiaggio, si sente, guarda che no, proprio... io ho doppiato solo me stesso e pure male, quindi non so se vedi allora che la mia idea era giusta, dice pure già male, hai vedi? Già c'è due allievi, guarda, già due allievi. Francesco, sì, senti, leggo e non lo sapevo sinceramente, a parte i tuoi lavori storici, hai lavorato anche con Giorgio Albertazzi come regia, a parte che ho visto quel piccoli, sì, equivoci bellissimi, c'era anche Mauro, se non sbaglio. Sì, c'era anche Mauro. La regia di Claudio Bigagli. Una grande parte molto umana, c'era tutto un monologo che faceva Mauro, si metteva a piangere tutte le sere, era veramente emozionante. L'importante è che faceva piangere la gente, Francesco, tu me tranquillizzi in questo, vero? La commuoveva molto. Questo era sono... Sono molto contento. E senti, con Giorgio invece cosa hai fatto? Guarda, ho fatto una storia, in realtà io poi lui l'ho visto 3 giorni, perché sostituivo un mio amico. Mm-hmm. Jacopo Venturiero, che è un bravissimo attore anche lui, e abbiamo fatto uno spettacolo con Sebastiano Somma e Benedetta Boccoli, sì, prodotto da Sabrina Ferilli con la regia di Giorgio Albertazzi. Madonna, che giro! Sì, era proprio un fritto misto. Esatto. Mancava Barry White e c'erano tutti. Esatto, c'erano tutti, era un fritto misto. Però io ero piccolissimo, ero appena uscito da Silvio d'Amico, ho sostituito questo mio amico che non poteva perché aveva preso un'altra tournée. E niente, insomma, ma ho avuto veramente poco a che fare con lui, perché in realtà già era montato lo spettacolo, quindi praticamente io ho copiato il mio amico. Vabbè, però insomma, hai incontrato il grande Albertazzi, che io saluto, sì, e abbraccio in maniera molto, molto affettuosa. Binasco, certo. E beh, perché... Ah, tra l'altro, posso dirlo, perché devi. Adesso c'è a Roma, non so se si può dire questa cosa, ma ho visto ieri meraviglioso. Si chiama John e Joe, regia di Valerio Binasco, uh-huh, al Piccolo Eliseo. Io lo consiglio perché è veramente eccezionale. È bellissimo. Con gli attori Sergio Romano e Nicola Pannelli. È perfetto, si può dire, si deve dire. Il teatro va aiutato in tutti i modi ed è bello che un attore, un collega, parli dello spettacolo di altri colleghi. La cosa più bella del mondo, quando il tuo successo non è l'insuccesso degli altri. No, certo. Gino? Certo. Ma gente brava c'è in giro, è meglio è per tutti quanti. Gino. Assolutamente. È bello, ripeti, al Piccolo Eliseo, il titolo? Il Piccolo Eliseo credo finisca il 29 maggio, quindi avete questa, uh-huh, settimana. Tutte le sere alle 20, a parte ovviamente il lunedì, che noi siamo come i barbieri, sì, esatto. E la domenica alle 4. Perfetto. Piccolo fino a domenica prossima. Credo. Quindi può fare l'ufficio stampa Montanari, esatto. Se un giorno si stanca di fare qualsiasi cosa. Invece c'è una cosa interessante che non sapevo, Francesco. C'è un libro nella tua vita in questo momento, c'è una cosa editoriale, sì, importante. Sì, assolutamente. Guarda, c'è il secondo romanzo di Andrea Cedrona. Mm-hmm. perché praticamente lui ha scritto il primo romanzo insieme a Andrea De Logu, che era mia compagna, sì, cui tra poco mi sposerò. No! Attenzione, questo non è Gossip Anatomy, ma è Voice Anatomy, ma questa notizia che ci fa piacere. Mauro me lo può confermare. Ci fa molto piacere, visto che siamo amici. Brava ragazza, talentuosa. Ma poi quindi, brava, sì, è conosciuta anche molto. Assolutamente, insomma, una presentatrice. È una ragazza 2.0, nel senso esatto, delle... Sì. Brava, ragazza 2.0 è un'espressione che mi piace molto. Sì, ma sono moderno. Anche 2.30. avanti. Cioè, tu riesci... Gino, dobbiamo... Io non ho mai capito cos'è 2.0. È il futuro, insomma, l'internet. È come dire un'evoluzione. Oh, finalmente, grazie. In diretta mi avete spiegato. Capito, Gino. Le tasse si fa sentire. E sì, loro hanno scritto questo libro insieme. No, no, ferma un attimo. No, adesso parliamo al libro, ci abbiamo anche 3 minuti. No, tu mi hai detto una cosa, che ti sposi. Sì. Montanari. Cioè, io quando ti ho conosciuto tutto potevo immaginare. tranne che... Ma anche se tu sei uno papà. Tu sei casalingo, sei pantofolaro, è vero. Non tifo calcio, capito? Sì, è bellissimo. La domenica stai a casa, che creature, casa, tu moglie, sì, che esce, va allo stadio. Esatto. Cioè, vedete, ma quando è il lieto evento? Non si può dire, state organizzando. 25 giugno. Cioè, adesso? Sì, ma non diciamo dove, sennò altrimenti viene pure la polizia. Diciamo dove, però il 25 giugno. Allora, lo levo da Facebook, l'ho scritto su Facebook. Scusa, Francesco, lo levo subito. Levalo. Ma un tramezzino si può venire a rubare, sì, una cosa. Ma certo. Fai ma una festa gigantesca. Non è arrivata la mail. Vedi, non mi arriva indietro le mail. Io ce la faccio più, sto impazzendo. Ragazzi, comunque... No, organizzare un matrimonio è peggio di qualsiasi film. È un delirio. Ci ha detto che non sa più come sfogarsi il povero Francesco con sta cosa. Beh, è un po' come il parto per una donna, capito? Talmente doloroso che dimentichi una volta che hai il bambino, no? Arriverà pure quello, un piccolo montanarino, sì, del logo. Un piccolo montanarino nel mondo. Senti, il libro, torniamo sul libro, che mi sembra una cosa affascinante. Sì, guarda, lui ha scritto questo secondo romanzo che si chiama La speranza è un vizio privato. Uh-huh. Ed è praticamente il primo, credo, di una trilogia, non vorrei sbagliare, di questo caso di cronaca successo a Milano nel 1946, e praticamente lui ha creato un nuovo commissario di polizia. E non esagero se dico un nuovo Montalbano contemporaneo. Ma che bello, se c'è il rischio, guarda, che diventi il rischio positivo, che possa diventare una fiction a questo punto, visto, no? Guarda, che il libro, io lo consiglio a tutti, si chiama La speranza è un vizio privato, edito Fandango, e il commissario si chiama Gerardo Conforti, e il caso Zanun. È veramente bello, un thriller proprio che ti lascia attaccato alle Tu pagine. Hai partecipato in qualche modo a questa stesura, oppure è soltanto il tuo modo meraviglioso di essere altruista? Io sono stato il primo a comprarlo. Ma dai, insomma, ha dato un bel contributo. Oggi sei straordinario, perché non parli un po' bene di me, di Gino, un po' di tutti? Ho visto che stai facendo un elogio straordinario un po' dappertutto, hai 2 minuti, come disse Groucho Marx, e basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi di me? Gino, ma che posso pensare? No, la voce parla per te. Esatto, meglio così. Francesco, veramente grazie, grazie di questo intervento, è stata una sorpresa per Gino, perché lui non ama recitare in dialetto, gli abbiamo forzato su questa strada, però poi abbiamo colto anche l'occasione per sentirti, sapevo che eri molto impicciato, Mauro me l'aveva detto, non avevo ovviamente il diritto di dire i motivi, anche se un po' lo immaginavo, e allora ti abbiamo telefonato, poi ti avrò magari in carne ed ossa qui in trasmissione da settembre, quando diventerai papà. Assolutamente, ma speriamo prima, dai. Prima settembre diventi papà, e che? Ammazza! Mamma mia, Francesco mio. No, almeno un annetto. Siamo in trasmissione. Prenditela comoda, amico mio, prenditela comoda. C'ha due gemelle. Ha giocato una sera, 2 gemelle. Io stamattina ho cambiato mia figlia, capito? Quindi... Qui ci abbiamo tutti i padri, un macello. Salutiamo Barbara, una moglie straordinaria. Senti Francesco, grazie davvero per questa partecipazione. Facciamo questa scuola. Sì, ma sì, non è male, non dai, è male. Due allievi ci sono, se arriviamo a 15 è perfetto. Piamose Roma. Piamose Roma. Francesco, grazie infinite, esatto. Sei unico. Ciao Francesco. Ciao Franci, un abbraccio a tua moglie. Alla tua futura moglie. E allora te ne vai, Mauro, sì, senza salutare i tuoi ascoltatori. Ma guarda, ritorna ad essere autore, perché lui è autore, è insieme a Alessia Navarro di là, il capo progetto, e lui è autore, si è alzato e è andato a prendere il suo posto. Certo. Però ci siamo, mancano 1 minuto e mezzo, salutiamo insieme, non salutiamo definitivamente, ovviamente, perché adesso entriamo in un momento molto intenso della trasmissione, parleremo con i nostri amici non vedenti di quanto è importante il veicolo della voce, quanto è veramente disegna tutto ed è affascinante, è un momento tecnico-artistico della nostra trasmissione, che ha questo taglio veramente di grande attualità. Io amo moltissimo fare questa trasmissione. In questi ultimi anni io mi sono dedicato veramente a questo, a cercare di leggere in un certo modo, a cercare di essere ascoltato, quello che dicevo prima, essere ascoltato. Cioè io non devo parlare solo per me, devo parlare a qualcun altro, gli devo comunicare le emozioni, e credo che questo mio sistema, questo mio modo di vedere la parola possa servire molto. Ho portato qui con me i Miserabili, vorrei leggervelo tutto. Così. Invece no, voglio chiudere con te, tu adesso devi salutare una cosa che non abbiamo messo, un Die Hard, Jeremy Irons, dire che fai questa parte dove reciti in maniera difficilissima questi scioglilingua bellissimi. Io sono andato a... Devi salutare e presentare il tuo... Torni la trasmissione, sarà lunga, come Duri a morire è quello che doppio, sarà duro a morire anche questa trasmissione. Sicuramente. Io ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te. Della tua grande umanità, della tua bravura. Un'equipe fantastica. Se volete vengo anche più tardi, anche domattina, anche domani sera. Sì, tanto hai parcheggiato qua sotto e si è accorto adesso che il parcheggio non andava pagato, per cui è scritto che può stare fino a domani mattina. Infatti ho detto, speriamo che Pino non mi fa stare fino a domani mattina. Esatto. Sfrutto sta cosa. E allora chiudiamo così, salutando Gino, accogliendo i nuovi ospiti, ma salutiamo ascoltandoci un suo Indiana Jones che ha condiviso con Michele Cammino. Esatto. Due per uno, insomma. Sì. Eccolo. Vai a letto con i gioielli, principessa? Sì. E niente altro. Scioccato? Niente può scioccarmi. Sono uno scienziato. E dato che sei uno scienziato, fai molta ricerca? Sì, sempre. Che genere di ricerca faresti su di me? Attività notturne. Insomma, che tipo di crema mi metto in faccia di notte? E in che posizione preferisco dormire? Rituali d'accoppiamento. Pratiche d'amore. Pratiche sessuali primitive. E sei un'autorità nel settore. Anni e anni di pratica. Hai tutte le ragioni di avercela con me. Sono difficile da trattare. Beh, ho conosciuto di peggio. Ma non hai mai conosciuto di meglio. Non lo so. Come scienziato non anticipo mai i risultati di un esperimento, te lo farò sapere domattina. Voice Anatomy. Bentornati, signori, dopo questo bellissimo momento con Luigi La Monica, ha detto Gino La Monica, l'amico Francesco Montanari. Continuiamo la nostra trasmissione, siete abituati ormai a sapere che è declinata in tutte le direzioni della voce. La voce è veramente che è l'elemento fondamentale di comunicazione in assoluto. E ripeto, non la bella voce, la voce giusta. Ma come vi ho detto sin dall'inizio della nostra trasmissione, evocato e affermato l'importanza della voce nella vita personale e sociale di ognuno, ma quest'ultima acquista una rilevanza maggiore tra tutte quelle persone che hanno una deficienza rispetto a uno dei nostri cinque sensi. Per alcuni, infatti, come gli ipovedenti e i non vedenti, la voce diventa un mezzo di comunicazione ancora più importante. E qui con me ho il piacere di avere due rappresentanti di questa categoria che ci possono testimoniare quanto la voce possa essere uno strumento di relazioni quasi indispensabile. Giuliano Frittelli, che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, e Davide Pigliacelli, che è un giovane ragazzo da sempre appassionato di doppiaggio. Sentiamo la voce di Giuliano, eccolo qui. Giuliano, come va? Bene, ben trovati a tutti, grazie Pino. No, grazie a te di essere venuto e grazie anche a Davide. Ciao Davide. Grazie a voi, ciao. Ciao Davide. Davide ha 33 anni, se non sbaglio, vero? Sì, la esatto. Biografia. E tu hai perso la vista a 10 anni per, sì, la sindrome di Béchet. Sì, credo che sia questa la pronuncia. Credo. Va bene, comunque una sindrome, come al solito, molto rara. Sono quelle, sì, cose che uno ha, per fortuna, no? Che fortuna, è molto rara, l'ho presa io. E da sempre sei appassionato di doppiaggio. E nel 2012, una cosa meravigliosa, hai creato il sito www.doppiatoriitaliani.com. In memoria del grande, mio grande amico, manca tantissimi, Claudio Capone, la voce indimenticata dei documentari. No, la storica, sì, voce, e non solo i documentari, ma lì, insomma, è il suo core business, come si dice, il grande Claudio. E realizzi con Piero e Alberto Angela il film documentario Claudio Capone, una voce in prestito, ora in lista per dei festival, è vero? Esatto, esatto. E nel 2014 fondi il festival annuale del doppiaggio Le Voci del Cinema, col doppiatore Gianluca Crisafi, sì, caro amico, che cura anche la regia del Gran Galà del doppiaggio a Romix. E poi curi, ma quante cose, i siti personali di amici doppiatori, mio no, per esempio, Alessio Puccio, Davide Perino, Manuel Meli, Jacopo Bonanni, e collabori col grande Gerardo De Cola. Ma sei un collega tu, ma Davide, ma che ti sei portato a fare, Giuliano? Perdonami, t'ha seguito fin qui, ma santa miseria. Si fa quello che si può. Ma che bello, insomma. Senti Giuliano, comincio con Giuliano, per certo, in ordine proprio decrescente d'età, Senti Giuliano, l'hai subito sottolineato. Subito, ma sei un po' più grande, dai, esatto, avrai 34, 35, esatto. Giuliano. Sì, sì. 36, guarda. 36. Vabbè, siamo per radio. Non te conoscono, che te vedo. Come dice quello, sappiamo che la fisionomica, no, aiuta molto nella valutazione di una persona, soprattutto al primo incontro. Una persona che non può avvalersi della vista, in che modo entra in contatto e in affinità con l'altro, Giuliano? Guarda, è importante proprio la voce, perché è il senso che noi abbiamo che ci permette di percepire l'altro a una certa distanza. Mm-hmm. Quindi tu considera, sfatiamo subito la leggenda, no, che i non vedenti hanno dei sensi super dotati, eccetera, perché non vedono. Il discorso, gli X-Men, è... no? Esatto. All'improvviso diventate col costume, esatto, il mantello. Non siamo Devil, no? No, esatto, esatto, sarei Devil è un altro. Esatto. Il Devil. Esatto. Quindi noi considera che, facendo a meno, purtroppo, diciamo, del discorso visivo, adattiamo gli altri e stiamo più attenti con gli altri di cui siamo in possesso. E quindi il primo impatto di solito è sempre la voce, che, certo, è un dato fondamentale, no? Come sottolinei spesso tu, perché, sì, praticamente grazie a quello ci permette già di avere una certa idea dell'interlocutore. Se ci piace la voce, è importante, perché già sappiamo come approcciarsi. Se la voce magari ci piace un po' meno, lo capiamo, insomma, il tipo di persona, o magari l'intonazione, o magari le pause, il distacco, il modo, se è attento quando parla con te o se magari nel frattempo chatta, insomma, stiamo... te ne accorgi pure se non lo vedi. Esatto, quindi che non è la bella voce, vedo Giuliano, è la voce la può voce, essere anche una voce leggera, quello che è, questo sfatiamolo questo mito, ma tu te ne accorgi, ecco, diventa una programmazione neurolinguistica, proprio sei in grado di cogliere quelle affinità. Allora non si acuizzano questi sensi di più, come si dice. Si impara ad usarli meglio, sì. Esatto. Si usano meglio, perché di quelli bisogna fare di necessità virtù, e quindi vanno, non ti dico potenziati, ma vanno sfruttati con una maggiore attenzione. Insomma, lo chef con te deve preparare il piatto buono, no? Bella, esatto, vedesse, come fanno certi, no? Esatto. Andiamo... Guarda che bella novel così, no, chi no, se ne frega, non mi piace. No, andiamo subito alla sostanza. Alla, esatto, sostanza. Senti Davide, cos'è che più ti colpisce dell'incontro con l'altro? Su cosa poggiano le tue prime considerazioni, invece? Anche per te la voce, oppure oltre quello c'è qualcos'altro? Sì, indubbiamente la voce, però diciamo che quando si è più abituato ad ascoltare, oltre alla voce in se stessa, noti anche i modi in cui si pone l'altro, quindi delle particolarità, delle caratteristiche che vedendo l'altro non noti, non gli dai molto peso. Ti distrae magari qualcosa quando ci vedi bene, dici, esatto, quella che è bella, non stai manco a sentirla, stai a guardare magari in più basso del mento e ti distrae e dici che bella persona, no? Insomma, poi andate al netto, uno deve chiedere a te, senti, com'è questa persona? Più o meno, sì. Più o meno succede questo. Giuliano, senti, io voglio che voi parlate soprattutto della vostra, dell'associazione. Molta gente non vedente in Italia, quanti sono? Guarda, sono tanti che fanno parte della nostra associazione, ma sono anche tanti che... diciamo al di fuori, anche perché a volte non sanno, non conoscono sia dei servizi o sia degli interventi che fa la nostra associazione. Considera che sono varie centinaia di migliaia tra non vedenti ed ipovedenti. Ipovedenti, sì, ovviamente, sì, gli ipovedenti, sì, parliamo del decimista, soprattutto della persona che ha un, sì, decimo, insomma. Del decimista, del cieco parziale, che sta fino al a un ventesimo. L'ipovisione è concentrata fino ai tre decimi, però l'ipovisione grave è fino al decimo, esatto. Per cui vogliamo dare anche un sito di riferimento per la gente che vuole occuparsi e magari non è a conoscenza esatto che cosa può fare questa associazione, come ti può essere utile, perché insomma è giusto che sia sicuramente così. Il riferimento è la nostra associazione a livello nazionale, che è www. uicechi.it. Questo è il nostro indirizzo. Uicechi. Uicechi, sì. È il nostro indirizzo del nostro sito. E lì si può trovare un po' di tutto, da che cos'è l'associazione, la tipologia di servizi che vengono svolte, tipi di interventi, alla formazione, perché noi ci occupiamo delle disabilità visiva a 360 gradi, quindi va dall'inclusione lavorativa, all'inserimento scolastico, bene, anche al tempo libero, allo sport, ci sono tantissime cose che bisogna sempre portare avanti, proprio perché l'importanza è proprio questo, no? Che non è che esiste il non vedente, esiste una persona che non vede, quindi noi dobbiamo cercare di migliorargli la vita e cercare di dargli quegli strumenti per inserirsi nel miglior modo possibile nella nostra nella società, nella quotidianità, nella, esatto, società. Certo, abbiamo sentito l'altra settimana il mio amico Leandro Baldi, che anche lui ovviamente sapete ha questo tipo di problema, della persona dotato di grandissima professionalità. Non è un caso, uno pensa sempre che si acquiscono gli altri sensi, perché dice ma guarda, senti Stevie Wonder, senti Ray Charles, il grande Andrea Bocelli, eccetera. Ci sono persone che hanno realmente acuito, forse non come dici giustamente tu, ha dato più attenzione agli altri sensi, sono sviluppati, perché giustamente devi in qualche modo sviluppare gli altri sensi e goderti un po' di più, odorare il sapore della vita, sentirlo proprio attraverso anche le narici, non soprattutto attraverso gli occhi. Quando andiamo in pubblicità per adesso, per poi tornare insieme ovviamente con i nostri amici. Va bene, allora rimanete con noi, Voice Anatomy, ancora con i nostri ospiti Giuliano Fritelli e Davide Pigliacelli, e poi ci sarà la volta di un altro grandissimo attore e regista che è Silvio Muccino. Giornata veramente ricca di carissimi ospiti. A tra poco con Voice Anatomy. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due, che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10:30 su Radio 24. Voice Anatomy. Eccomi di ritorno. Mi sono distratto un attimo, non in questi lunghi minuti di pausa, un po' il fiatone, perché ho raggiunto un mio amico con il quale, bravissimo, ma credo sia anche uno scienziato, non lo so, ne parlavo con loro, che noi tanti anni fa con la premiata ditta abbiamo fatto uno spettacolo per circa 1200 non vedenti con una tecnica straordinaria, anche in anticipo sui tempi, ma io penso sono passati tantissimi anni. E allora Antonio Azzalin, che adesso lo stiamo cercando per telefono, voglio che vi racconti questa esperienza, perché era innovativa al massimo, questi occhiali dotati dei microchip, dove se tu doti ovviamente il teatro, le strade o dovunque vai di questi microchip, ti dice esattamente la tua posizione nell'universo proprio, e a secondo come muovi la testa ti ridà. Ce l'abbiamo in diretta. Antonio, pronto? Pronto. Ecco, guarda Antonio, perdonami, ti ho cercato e ti ho trovato immediatamente in zona Cesarini, come si dice. Grazie Pino. Questa trasmissione, non so se la conosci, comunque si occupa di voce in tutte le sue declinazioni, abbiamo avuto prima attori, doppiatori, insomma siamo arrivati alla 40ª puntata, e mi sembrava giusto cominciare anche questo percorso con l'Unione Ciechi, che sia nazionale, provinciale o regionale, non ha importanza. Qui abbiamo Giuliano Fritelli, che è il presidente dell'Unione di Roma, no Giuliano, non sì, voglio sì, sì, sì. È un ragazzo, Davide Pigliacelli, che si occupa del sito di doppiatori, non del mio, infatti mi sono arrabbiato durante la pausa che non ci sono. E Antonio, raccontavo della nostra esperienza e loro non hanno mai sentito parlare di questa bellissima e grandissima innovazione, Antonio, che tu hai portato in tempi non sospetti. Ce la racconti? E perché si è fermata da qualche parte? Allora, innanzitutto saluto il presidente Fritelli e buongiorno a lei. Probabilmente questa notizia non è passata, malgrado fossimo, credo, insieme fino a sì. Maurizio Costanzo, l'abbiamo fatto vedere, esatto. E sono state attrezzate il Parioli, mi ricordo, sì. Diverse stazioni, l'aeroporto di Fiumicino stesso, insomma, in diverse epoche. Non ha avuto probabilmente l'attenzione dovuta, perché a quei tempi in qualche modo era una specie di tom-tom, quindi un navigatore che sì. parlava e che dava indicazioni nonostante non ci fosse ancora il GPS, quello che oggi tutti conosciamo e che ci permette quindi di orientarci. Non essendoci quello, noi avevamo messo dei riferimenti, se vogliamo dire così, in punto fisso, quindi dei baliso, dei trasmettitori. Ebbene, questo Pilot Light, si chiamò così, sì. Ha fatto praticamente epoca e credo che tanti ciechi se lo ricorderanno, sì, sì. E probabilmente era un po' troppo avanti, difatti qualcuno lo sta chiedendo adesso. È stato comunque un oggetto che parlava, quindi aveva una voce elettronica e dove lo si direzionava, questo oggettino che era grande, insomma praticamente come un pacchetto di sigarette, emetteva una voce e diceva cosa c'era davanti, di fianco, dietro, eccetera, il numero dell'autobus, che ne so, e accompagnava fino a un punto ben determinato che era quello annunciato. E sulla versione occhiali che tu parlavi prima, sì, degli occhiali. Erano praticamente due apparecchi miniaturizzati, ma veramente si parlava di microelettronica, quindi era qualcosa che era molto avanti, 25 anni fa. E erano per dare una sensazione che fosse stereofonica, quindi permetteva di avere un angolo di provenienza, quindi in base alla voce se era più verso l'orecchio destro o sinistro, l'angolo di provenienza appunto del messaggio, quindi una chiarezza che era ulteriore, superiore a quello dell'apparecchio che si doveva planteggiare, quindi tenere in mano e direzionare, quindi mani libere per capirci. Antonio, infatti quando ci siamo risentiti ho provato a parlarne qui al Comune di Roma, ma come tu sai spesso e volentieri le eminenze politiche sono sordocieche, senza pur sentendoci e vedendoci molto bene, non voglio offendere ovviamente chi veramente soffre di tutto questo, e poi non c'è stato più un seguito. Oggi mi sei, ovviamente non ho mai smesso di raccontare questa esperienza, oggi mi sembra il momento giusto, la radio giusta e le persone giuste vicino a me per ricominciare a parlarne. Non so che cosa può portare un argomento del genere. Io credo, e ho qui Giuliano di fronte a me, che forse può essere più giusto di me per raccontare se si può continuare questa esperienza. Tu te la ricordi, Giuliana, questa grandissima esperienza di questo tipo di occhiali, questo tipo di apparecchiatura elettronica, eccetera? Te la ricordi, Giuliano? Sì, il Pilot Light, sì, me lo ricordo a suo tempo e conosco anche alcune persone che l'hanno poi utilizzato. Adesso poi non so se ci sono state delle evoluzioni da allora perché i tempi, diciamo, gli anni passano, magari ci sono stati altri sviluppi, quindi magari ci può dire lui direttamente che cosa c'è di nuovo portato avanti sull'argomento. Che può succedere, Antonio? Allora, è successo che, se vogliamo dire, la versione più recente, poi dopo è stato abbandonato questo progetto, proprio perché richiedeva, non perché ci sia una sordità o cecità, se vogliamo dire, da parte dei politici, che forse la malattia è reversibile per loro, ma credo che il problema sia dovuto anche alla comunicazione, ed è il motivo che, credo, Pino, ci eravamo sentiti, mm-hmm. insomma, non tanto tempo fa, esatto. Perché parlavamo di necessità, e questa è una colpa che è nostra, dei vedenti, ma è anche colpa in parte, tiro in ballo i non vedenti, che è quella di non farsi conoscere, cioè di non farci conoscere abbastanza, o perlomeno di usare un linguaggio che probabilmente per il vedente, insomma, c'è quella sorta di sesto senso che viene tirato in ballo, come se il cieco, che ne so, il buon Dio, quando gli toglie la vista, a un certo punto gli desse un sesto senso, quindi una capacità, che in realtà il sesto senso è dovuto alla loro grande capacità, diciamo, dei non vedenti, di arrangiarsi, di sopravvivere, di oltretutto sono delle scuole, quindi insomma c'è molto lavoro umano. Cioè non bisogna accorgersi delle persone soltanto perché adesso si vedono delle linee gialle dove possono parcheggiare gli handicappati, come si dice, all'improvviso esistono e prima non c'erano, no, e che prima c'era una cecità da parte delle persone, non consideravano il fatto che c'era una persona con la sedia a rotelle che non poteva prendere l'autobus, che c'era una persona che non poteva parcheggiare sotto casa, per cui adesso esistono e prima no, e che adesso magari c'è un'attenzione maggiore di chi riesce a farsi sentire. Io credo che la persona più giusta sia anche il ministro della sanità, che è una persona molto attenta, che è Bea Lorenzin, che è una persona veramente attenta in tutte le direzioni che riguarda la sanità, per cui io spero di poterla inglobare in questo discorso. Credo sia molto sano, no Giuliano? Mi riferisco a te perché sei insomma rappresentante di un'associazione importante, per cui se riuscissimo a portare avanti questo tipo di sensibilizzazione tecnica per aiutarvi non è male. Che cosa mi dici, Giuliano? Penso proprio di sì, nel senso che praticamente io credo ogni tecnologia che possa migliorare sia la mobilità ma anche l'aspetto della vita di ogni giorno di una persona che non vede o di un disabile in genere è sempre ben accolta. Bene, Davide, tu che sei giovane, ti sembra una cosa molto importante, no? Riuscire a orientarsi nonostante tutto, riuscire. Io mi ricordo che rimasi veramente stupito quando al Parioli ho messo quegli occhiali, ho chiuso gli occhi e sono arrivato al mio posto in platea senza aprire gli occhi, ed è stata veramente un'esperienza straordinaria, ne parlammo. Poi si è persa e vorrei che si riprendesse. Questa è un'occasione meravigliosa anche per reinvitarti a Roma, Antonio, e parlarne e urlarlo da questi microfoni e magari farti sentire dalle persone giuste. Dimmi, Antonio. Sei ancora un attimo? Sì, sì, assolutamente sì, abbiamo ancora un altro blocco. Rivolgendomi anche al presidente Fritelli, quest'anno la giornata nazionale del Braille è stata fatta a Firenze e a Cagliari. Ebbene, il presidente del Club Italiano del Braille, che è anche presidente del consiglio regionale lombardo, quindi dell'Unione Ciechi, Nicola Stilla, aveva un bigliettino da visita che era un gadget, tra virgolette, ma in realtà era il suo biglietto da visita, e stranamente l'argomento è stato il Braille per i vedenti. Voi non ci crederete, ma sono 5 anni che io continuo a dire che faccio il Braille per i vedenti, ma non perché sto facendo un Braille che sia diverso da quello di lui Braille, ma è praticamente cerco di comunicare al vedente com'è facile, quindi da vedente a vedente, dire guarda, puoi scrivere il Braille con la biro. Allora, quel bigliettino da visita ha un brailografo, cioè è una specie di normografo con delle caselle che hanno 6 buchini, dove anche i bambini, seguendo un alfabeto visuale, cioè quello che noi facciamo abitualmente, ma però con i puntini, scrive è quello che risulta, è un bigliettino con dei puntini che sono tattili, quindi leggibili, perfettamente uguali a quelli che si fanno col punteruolo con la tavoletta. Rimani con noi, Antonio, dobbiamo andare un minuto in pubblicità e tornare ancora per un blocco con i nostri amici. Per voi, Senato, mi segnalate il nuovo dispositivo assistente personale che vede e parla ai non vedenti, Horus Tech, mi scrivono. Forse un'altra tecnica ancora. Va bene, rimanete con noi un minuto e torniamo subito con i nostri amici. Grazie. Voice Anatomy. Bentornati, signori, come promesso, rapidissimi. Antonio, senti, ci facciamo una promessa. Noi abbiamo ancora alcune puntate, andiamo avanti addirittura fine giugno sicuro, forse anche luglio con Voice Anatomy. Tu sei in quel del nord, se non sbaglio, vero? Sì, sono ad Asti. Ad Asti. Io ti cercherò dopo questa trasmissione, in questi giorni della settimana, e se ti fai una passeggiata qui a Roma possiamo parlarne più approfonditamente di questa questione e riprenderla in mano, perché tu sai, non ho mai smesso di amare quello che tu hai fatto. ci ha fermato qualcosa. Ma conosco purtroppo anche il tuo impegno, Pino, lo sai. È silente, ma il tuo impegno è sempre lo stesso. Ci metto un po' di più, ma poi alla fine ci arrivo anch'io. Va bene, Antonio, grazie. E sì, ti richiamo abbraccio in questi giorni per averti ospite qui. Grazie, Antonio, un abbraccio forte. Grazie forte, a voi. Forte. E allora, mi sembrava una cosa bella, io all'improvviso mi sono ricordato di questa giornata straordinaria che ho passato con lui a Ferrara e poi a Roma, e c'è stato un momento dove veramente sembrava che i ciechi potessero, fra virgolette, riacquistare la vista, perché, ripeto, sono riuscito ad occhi chiusi a andare al mio posto in un teatro, ed è stato perfetto, senza neanche inciampare, senza bastone e senza niente, pensate. Giuliano, nel 2006 è stata istituita per la prima volta la giornata nazionale del cane guida. Che non sbaglio, vero? È giusto? Sì. Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui diritti dei cittadini non vedenti, ipovedenti e il loro accompagnatore, valorizzando soprattutto il compito che svolgono questi preziosi amici a quattro zampe. Spieghiamo meglio al pubblico che non conosce questa realtà quali sono le procedure per avvalersi di questo importante compagno. Allora, innanzitutto diciamo che serve comunque una certa autonomia, perché il cane ti conduce, ti permette di evitare ostacoli eccetera, ma attualmente glielo dici tu dove andare, perché sennò poverino, è chiaro, se tu vai a casa al lavoro eccetera, lui l'impara e poi ti porta, ma se non è che io gli metto la cartina davanti al muso e faccio io qui devo andare, lui si dice wow, mi guida, esatto, certo, mi porta dove io devo andare. Però ecco, è molto importante, al di là delle battute, perché ha permesso e permette l'autonomia a tantissime persone. Considera che ci sono tante persone che hanno perso la vista e non uscivano più da casa, tutta una serie di situazioni, e grazie all'ausilio del nostro amico praticamente hanno riacquistato non solo la mobilità, ma anche la socializzazione con tante persone, perché guarda, è un mediatore culturale incredibile, perché se io vado da solo col bastone magari la gente rimane perplessa, non mi dice niente, se no lo distraggo. Col cane chiedono tutti di accarezzarlo eccetera, e comunque io ho una relazione con gli altri che mi aiuta proprio nell'inserimento sociale. Insomma, è come per noi comuni, ci vediamo bene andare al col parco bambino. Col bambino, esatto, è uguale, insomma, esatto. Si rimorchia in qualche modo. Esatto. La tecnica è la stessa. Io mi permetto di giocare perché so di quanta ironia sono dotati i miei amici non vedenti, sono veramente straordinari, per cui averlo è più o meno facile, come si fa tecnicamente, lo sanno tutti ormai, è una cosa. Beh, ti parlo da profano ovviamente. Ci sono varie scuole, quindi bisogna fare una domanda, bisogna avere appunto in alcune anche, anzi prevalentemente tutte, il discorso di una buona mobilità, come dicevo prima, perché non è detto che ti venga assegnato, perché devi essere in grado di poter andare da solo, altrimenti metti a rischio la vita tua e del cane, insomma, quindi praticamente devi saperti muovere. Però ci sono dei corsi, il cane viene addestrato, superati certi requisiti, perché non tutti i cani sono idonei, come non tutti i conduttori dei cani sono idonei, quindi come non tutti i conduttori sono idonei in genere, i conduttori come me non è detto, della radio non metto bocca, non metto pena. Però è giusto. Davide, senti, come ho accennato prima, nella tua biografia sei un grande appassionato di doppiaggio, anche se non sono nel tuo sito, ma comunque come entra devi provvedere come, ma insomma c'hai Perino, il grande Perino, che è Frodo, e non c'hai Aragorn, ma santa miseria. Senti, come entra a far parte della vita questa forma d'arte? Ma io mi sono appassionato al doppiaggio nel 2000, più o meno, quando ascoltavo i programmi sul doppiaggio in radio riguardo a Star Wars, La minaccia fantasma, e da lì in poi, essendo un grande appassionato di Star Wars, da lì in poi... Dove Capone, poi ne parliamo del grande, sì, Claudio, era Luke Skywalker, sì, no? Grande. Insomma, da lì insomma, c'era un compagno di classe che già mi aveva detto che andava qualche volta ad assistere, e da lì ho chiesto un contatto. Si trattò dello studio, era la CTA, la primissima, sì, in cui sono entrato, e il primo che mi rivolse la parola fu proprio Claudio, e mi fece da lì in poi da guida in questo ambiente, e poi nacque una bellissima amicizia con che lui. Che bella persona, non ho dubbi a pensare che fosse, che sia stato Claudio ad accompagnarti. E adesso il tuo cane guida, che non era cane però, era bravo nel suo lavoro, era tutto meno che quello. Io penso a Guerre Stellari, non ho mai doppiato, ho perso il provino quest'anno per fare il cattivo, che ha vinto poi giustamente Massimo Corvo, che ha una voce molto più potente per quanto riguarda il cattivo. Feci però nel 3, nella rivincita, nel ritorno dello Jedi, feci Rosso 2 o Rosso 3, sono morto subito, ho detto soltanto Rosso 3, boom, mi hanno sparato lì, credo, è finito il mio turno di doppiaggio di Star Wars, lì ho finito. Infatti da lì, proprio per continuare con il discorso di Claudio, hai realizzato con Piero e Alberto Angela, due persone che vorrei avere, lo dico ai miei autori, ad Alessia Navarro e Mauro Meconi, Piero e Alberto Angela. Dai, su, per favore, telefonateli. Questo docufilm su Claudio Capone, come è andata questa iniziativa? Com'è nata? Ma praticamente iniziativa? Davide Capone, che saluto, uno dei figli di Claudio, mi ha parlato di questo progetto 3 anni fa, e c'è il regista Antonio Prochilo di Torino che aveva proposto questo lavoro, ovviamente tutto quanto, tutto fatto appunto senza scopo di lucro, tutto quanto da due persone che hanno voluto un gran bene a Claudio, almeno chi è, ha avuto modo, insomma, ovviamente. Abbiamo voluto bene tutti. Sì, Claudio, esatto. Però, abbiamo pianto tutti quel giorno, esatto, anche nella chiesa Piazza del Popolo. Me lo ricordo ancora, purtroppo. Tutti c'eravamo. Però ecco, chiaramente essendo un film documentario per i festival, chiaramente più di 40 minuti non era possibile realizzarlo, e quindi si è dovuto fare una cernita per forza di cose. Però ecco, molto gentili anche, insomma, Piero Alberto Angela. Sì, altre persone squisite. Sì, veramente. Molto attente. Hanno dato una grande mano a questo, insomma, per realizzare questo film, e adesso sì, stiamo aspettando un po' di risultati da dei festival, e ci saranno un po' di novità a riguardo. La voce fuori campo di questo film è sempre di Claudio? No, non c'è una sola. È un concerto di persone. Ti ringrazio perché non faccio parte neanche di questo film, perché non mi hai chiamato, per cui non sto sul sito. Non mi hai chiamato. Questo non dipende da me. Io non capisco perché gli autori abbiano invitato Giuliano, perché hanno chiamato Davide. Cioè, non riesco a capire. Vabbè, ma recupererai, vero Davide? Assolutamente, immediatamente. Ecco, Giuliano, senti, qual è proprio l'approccio di un non vedente alle varie forme d'arte visive, quale il cinema, il teatro? Cioè, come ti poni di fronte a tutto questo? Guarda, c'è una grande passione della maggior parte, come ti dicevo, delle persone che non vedono. Comunque si manifesta in tante attività. Pensa, e allora faremo anche una mostra il 28... 28 giugno? No, il 28 maggio. Ci sarà una mostra. Ah, maggio adesso? Sì. Sabato prossimo? Sì, insieme a un circolo alla Traccia. Praticamente faremo una mostra di scultori non vedenti e degli ipovedenti che hanno partecipato invece a un corso di fotografia. Quindi sarà molto carino. Ma dove? Ripetimi, non ho capito, dove si farà questa mostra? Si farà qui a Roma, alla Traccia. Dov'è? Lo sai, la via, la zona? Te lo faccio sapere. Che ci portano? Che ti importa? No, a te? Sulla Prenestina. Vabbè, ho capito, però. Ti dico l'indirizzo preciso perché stiamo ancora. L'ultimo dato mi serve, quindi praticamente te lo faccio sapere quanto prima. Va bene, così magari possiamo. Vabbè, no, sì, poi comunque domenica troverete tutte le informazioni sul nostro sito. Su icroma.it. www.icroma.it. Icroma. Sì, dillo bene con la voce giusta, Giuliano. Udine, Imola, Como. Bravo. Roma, Otranto, Milano. Ancona.imola Torino. C'è molta ironia nella voce di questa cosa. Di sta parlando con uno che non capisce, lo mi parla lentamente. Hai capito che mi tocca sopportare, caro Davide? E senti, invece, tu come ti approcci a quest'arte? Cioè, sei affezionato? Sono le voci che vi accompagnano in tutto questo, no? La voce riconoscibile che dice: ok, questo è quell'attore. Pensate quanto è importante. Quanto è importante la voce anche in un film, e noi ci occupiamo anche di questo, parliamo di doppiaggio, per cui no, Giuliano? Sì, no, infatti permettimi, Davide, un attimino, soltanto per sottolineare il fatto che, come ti dicevo, siamo tutti appassionati anche di cinematografia, eccetera, e una cosa molto importante sono le audiodescrizioni dei film, che noi chiediamo sempre, perché così fruirà pieno del film, no? Perché magari nelle parti in cui c'è solo un'immagine, non rimaniamo così. A me è capitato diverse volte che vedevo tutto un film e mi piaceva, poi alla fine finiva solo con i sottotitoli e una musica, e quindi non sapevo il finale. Com'è finita? Cioè, per te Love Story lei è ancora viva. Esatto, quindi c'è Via col vento, lui è rimasto. Quindi è una cosa drammatica, dopo 2 ore che tu non sai com'è finita. È vero storia. Che gli ultimi 5 minuti senti, i film sono finiti in un modo, voglia di tenerezza, lei sta benissimo in famiglia. Quindi sarebbe importante sensibilizzare proprio le produzioni e tutti quanti che i film vengano audiodescritti, insomma. Che non è male, sì, è vero. Adesso magari il DVD racconta qualcosa in più, il commento, ma è vero, anche lì non c'è il commento per il no, non vedente. I sottotitoli ci stanno. Sì, i sottotitoli, perfetto, però, perché esatto, per voi è perfetto, esatto, sono in braille, no? Esatto. Cioè, praticamente i sottotitoli in braille, mi immagino, veramente, no, una follia. Per cui non c'è, ma cosa c'è ancora da fare per poter vivere una vita normale dal punto di vista sociale? Insomma, ci sono delle cose da fare. C'è sempre da fare, sempre guarda, da fare. Sempre da fare. Qualsiasi, in qualsiasi campo si può sempre migliorare, poi per dirti la mobilità è una lotta per fargli gli autobus che siano, che diano le informazioni verbali, anche se sono utili a tutti, non solo ai non vedenti. Sì, sì, anche ai non ascoltanti, ai esatto, distratti. Perché è distratto e so che devo scendere, può essere utile per tanti aspetti, l'inclusione lavorativa, l'inclusione scolastica. Noi per esempio stiamo facendo delle iniziative interessanti per far conoscere alle aziende dei ragazzi non vedenti che hanno tutti i titoli, tutte le professionalità, ma c'è sempre una diffidenza nei riguardi di una persona disabile. Certo. Quindi facciamo incontrare anche aziende proprio per sfatare questo, e poi infatti sono tutti molto contenti ed è un'opportunità in più da dare, insomma. Assolutamente sì, e come sì, disse sì, Ray Charles, tu non canterai mai, va bene, no? È la stessa cosa. Cieco e negro, esatto. Cieco e negro, oltre a nient'altro. Esatto. Caro Davide, fai una promessa per radio, perché manca un minuto ancora per stare insieme. Che promessa devi fare? Che sul sito, sul sito inserirò lo spazio dedicato al grande Pino Insegno. Questa è coercizione, vero Giuliano? Non no, è giusto, ma io penso che al scelto liberamente. È vero, che, sei so, d'accordo? Il esatto, presidente dice che è stata una scelta tua libera, c'è anche tua madre no, vicino, dai, è stata, vuoi che tolgo no, la pistola? No, perché non ho, dalla tempia dice. Esatto, non è la cuffia, te ne sei accorto che è più fredda, no? No, perché non avendo uno staff, faccio tutto io, festival, siti. Allora, elimina qualcuno. Quindi, dei miei colleghi, okay, perdonami, scusa. Rimedio. Telefono a qualcuno, dimmi, dispiace, non c'è più. Per te, il sito, il mio sito, finisce qui. Scherzo, ovviamente. Rimedierò. Allora, io spero di riavervi in qualche modo. Antonio, ho strappato una promessa e magari ti ricoinvolgerò, Giuliano, te e magari anche il presidente nazionale per telefono, e cerchiamo di fare proprio una piccola tavola, se non rotonda, almeno ellittica, per quanto certo, riguarda le possibilità, e magari avere anche il ministro. Hai visto mai? Posso concludere solo un piccolo sì, appello? Per prima tu mi hai parlato dei cani guida, una sì, cosa importante è proprio accoglieteli, perché a parte la normativa, però ricordate che rende una persona, restituisce una persona mobile la possibilità di muoversi, quindi non facciamo che poi io chiamo un albergo per prenotare le vacanze, e poi come dico col cane, prima il posto c'è, come c'è il cane, il posto è spegno, o i ristoranti non si può entrare. Ricordate, per norma si può entrare ovunque, ma se li accogliete, diciamo, in maniera molto più carina, sono clienti per voi e nello stesso tempo state tranquilli che vi troverete bene. Insomma. Anche perché sono molto più educati di tante persone che esatto, camminano su due gambe. Sono cani guida, non sono guide cani, esatto. Ma che bella cosa. Grande Giuliano, grazie della vostra partecipazione, grazie Davide, per quello che farai per me nel tuo sito, grazie ai grazie tuoi accompagnatori, poi ne parleremo. Ovviamente noi andiamo avanti, c'è un incontro con un bravissimo regista e un bravo attore, un caro amico che è Silvio Mucino, tra pochissimo qui a Radio 24 e a Voice Anatomy. Grazie ancora Giuliano, grazie ancora Davide e all'Unione Nazionale Cechi. Voice Anatomy. Giornata ricchissima qui a Voice Anatomy, tantissimi ospiti come sempre, dei colleghi, degli attori, dei doppiatori, l'associazione non vedenti, veramente intensa, perché io ringrazio davvero gli autori, capoprogetto Alessia Navarro e Mauro Meconi, altro autore, per trasportarmi e trasportarci in un mondo parallelo importantissimo. Io sapevo che quello della voce è sicuramente un mondo declinabile in tutte le sue funzioni, e quanto è importante la voce, ripeto, non la bella voce, ma ho scoperto un mondo parallelo meraviglioso, e la possibilità di farlo conoscere agli altri ci sta dando ragione. Prima di collegarmi con un altro caro amico, un grande professionista che è già al telefono, leggo alcuni dei tantissimi messaggi, sono veramente tanti oggi. Allora, ciao carissimo Pino, ho imparato a conoscere moltissimi dei doppiatori e degli attori grazie alla serie 24, in mezzo a questi sono anche le sorelle De Bortoli, sicuramente Barbara, le inviteremo. Buon pomeriggio a voi, per l'intero staff, anche tecnico di Radio 24, Giovanni, tantissimi, Gino, vabbè, altre domande per Gino La Monica, ma è andato via. Ciao Pino, ascoltando la tua trasmissione mi hai fatto pentire di non essermi mai interessato al doppiaggio fino ad oggi, ti ascolterò domani nel podcast. Oggi è brutto tempo qui da me, sto al lavoro, ho litigato con mia suocera, meno male che ci siete voi, mazza. Neanche a dire potrebbe piovere come Frankenstein Junior, che succede quello. Un abbraccio, ti sono arrivati, a proposito di allucinazioni uditive dell'altra settimana, ti sono arrivati i miei insulti per non essere andato in trasmissione, scherzo, ti adoro, ciao. Beh, insomma, la domenica da quando è andata questa trasmissione a lavorare ha un senso. Tutti belli messaggi, io mi piace, lo sapete leggere anche quelli cattivi, ce n'è stato solo uno oggi. Va bene così. Allora, io mi collego immediatamente, tanto radio, telefono, è uguale, come se fosse qui in diretta insieme a noi. È bravissimo, giovane anche lui, come l'amico di prima Francesco Montanari e Mauro Meconi. E sono contento di dare il benvenuto a Radio 24, a Voice Anatomy, a Silvio Muccino. Ciao Silvio! Ciao Pino, come stai? Ma che bello sentirti, perché ci siamo sfiorati spesso... Però ho avuto la fortuna di parlare poi di te insieme a Mauro Meconi, che è anche uno degli autori, l'ho detto più volte, e ti aveva incontrato, dice abbiamo la possibilità di Silvio, assolutamente sì, assolutamente. Ma guarda, sì. È un piacere per me stare qui invece con voi. Perché è proprio... È un piacere, quindi bene, passiamo la domenica insieme oggi pomeriggio. Sì, magari tutta, qui purtroppo solo 20 minuti, ma la prossima volta magari uno riesce pure a organizzarsi fuori dalla trasmissione. Ma un piacere davvero, normalmente si dice sempre così, no? C'è il conduttore, c'è l'ospite, si baciano, si abbracciano. La verità poi manca spesso e volentieri. In questo caso invece c'è veramente... Sì, ciao, come stai? Ma che bello, poi magari invoglio uno che se ne va. No, lo so, ma perché c'è avuto successo, io no? Vabbè. Vabbè, io posso dire... Niente sul cinema, sì, doppiatore sicuramente sì, ma io ho fatto nella mia vita 8 film e li manderanno fra poco nella serie I Dimenticabili di Rete 4, Silvio. Cominciando dal mio primo film, mezzo destro, mezzo sinistro, cioè abbiamo debuttato nello stesso modo. Tu hai debuttato nel cinema come attore a soli 16 anni, anche come sceneggiatore di un film meraviglioso, Era Come Te Nessuno Mai, che quando l'ho visto sono grazie, rimasto veramente... Un grande fan di quel film, mamma mia. Fa molto piacere. In momenti poi non sospetti, perché insomma adesso è facile urlare al miracolo per quello che fai, ma prima non era facile trovare questo ragazzo di grande simpatia, di grande spontaneità, di grande verità, e poi leggere che eri anche lo sceneggiatore, beh, lì piccola invidia, ma positiva c'è stata. Poi non deve essere invidioso di quelli sì, bravi. Ma io vorrei chiarire una cosa rispetto a questo sceneggiatore di 16 anni che sì. ero. In realtà io facevo un lavoro che era puramente informativo, io riferivo quello che vivevo, io ero una specie di Wikipedia dei 16 anni del 90. Eri in applicazione, insomma, prima, in tempi non sospetti, un'app Muccino Silvio era. Esattamente, era un'applicazione, esattamente. Uno decliccava, dice. Niente di più. Vabbè, non è niente di più. No, no, beh, dai. E poi ti sei anche guadagnato una bella candidatura al Nastro d'Argento lì. E poi come miglior soggetto e vinci il premio speciale come attore rivelazione. Ma tu stai su Wikipedia? Allora. No, io lo sapevo ste cose, ma poi gli autori, sai, ci tengono. No, io se dovessi leggere quello che hai fatto, è finito il blocco con te, ci abbiamo solo quello dopo, praticamente. Invece ti ho detto, i miei 6 film si concludono benissimo così, mezzo destro, mezzo sinistro, dove sono stato anche doppiato, pensa, se te rendi conto. No, sono stato dici? Doppiato in Veneto da un collega, è stato bellissimo. Mi chiamavo Carlo Vacca, che passerà alla storia come Vacca Carlo, meraviglioso, ma non so ricordo. Uguale al film tuo, cioè lo stesso debutto ci abbiamo avuto. Poi lo stesso anno, praticamente dopo che hai fatto, no, lo stesso anno, no, perché 2004 andiamo, Ricordati di Me del 2003, Che Ne Sarà di Noi di Giovanni Veronesi, con quali poi scrivi la sceneggiatura, vabbè. Sì, sì, poi la scrittura è diventata, parte di una te. Cosa molto importante, sì, poi ha preso piede. Senti Silvio, tu sei autore, attore, regista, scrittore di romanzi, insomma quale di queste attività ti ha dato maggiori soddisfazioni finora? Ma guarda, io in realtà mi sono cercato un po' in giro, dappertutto. Anche perché quando inizi così giovane, così piccolo, non puoi dire di aver scelto un lavoro, ti ci trovi, ti danno questa possibilità, funzioni per una qualche alchimia che neanche tu capisci bene, forse perché incarni in quel momento un'immagine riconoscibile, e poi dopo inizi il lavoro vero. E il lavoro vero per me è stato cercare poi di capire cosa volevo fare nella vita, cosa volevo essere, e mi sono trovato delle strade che volevo battere un po' in solitaria, e tra queste cose qui alla fine ho capito che la scrittura, la regia o la recitazione in realtà sono un mezzo per quello che veramente mi interessa, cioè raccontare storie, che poi diventerà, credo, lo sta già diventando, ma nel futuro sempre di più, forse la mia ambizione ultima, cioè quello di essere, forse di farmi anche un po' più indietro, farmi da parte, fare spazio ad altri attori, possibilmente avere la possibilità di dirigerli, però non te devi scansare totalmente, oh, di dirigerli, ah, sì, di metterli davanti, insomma. Certo. già con l'ultimo film ho iniziato un discorso più corale, nel sì. prossimo film sicuramente andrò in questa direzione. Ah, quello poi, che faccio io protagonista, no Silvio? Praticamente quello bravo, che mi chiama. Quello, vabbè. Ma non lo... è già arrivata la notizia. Lo so, non Silvio, ma volevo. Lo so, Silvio, ma volevo darla piano piano, ma non ce l'ho fatta a te, me l'ho detto che non ce l'avrei fatta. Scusa, ti ho rovinato la sorpresa. Vabbè, fallo fa un'altra allora a sto punto. Mi tolgo io. Vabbè, lo fai fa un'altra. Ho capito. Va bene. No, Pino, come da chiappo te prendo, come da chiappo. Oggi ringrazia che non sto lì in persona. Ti fa, tanto verrai in di persona qui, tanto ma la trasmissione sì, è un grandissimo successo, per cui Mauro continuiamo. Mauro ti coercizierà. Casomai faccio la voce del trailer, ti è. Il titolo ce l'hai? A parte che tu lo sai, io invece ho una passione, adoro portare, specialmente nell'ultimo film ho lavorato con Emanuela Rossi, sì, con Luca Ward. Con Luca, sì, infatti. Insomma, io adoro dare viso e corpo alle vostre alle voci. Meravigliose voci, per cui ti userò non solo per il trailer. Ma per il mio bel corpo, diciamolo. Anzi, metterti in forma, perché alla prima buona occasione, capito, se mi serve un bel protagonista, veramente vado da pescare. E che hai parlato con mia moglie che mi mette in forma? Sto bene, cioè, c'è stata una fuga di notizie, c'è stata fisica. Senti che Silvio, noi che abbiamo degli ascoltatori attenti, a parte i complimenti per tutto, chi ti segue da sempre, eccetera, ma proprio tanti, oggi i messaggi sono veramente tantissimi, una giornata bellissima come questa, siamo felici, perché abbiamo degli ascolti veramente importanti e sono felicissimo. Questo è per l'angolo della suoneria del cellulare, perché ogni tanto i nostri radioascoltatori molto attenti, e vengono attori, doppiatori, vogliono le suonerie del cellulare con le voci dei loro beniamini. Qui mi dicono, è diventata un leitmotiv della trasmissione senza lanciarlo poi. Potresti fare il mitico, caro Silvio, noi siamo contro le privatizzazioni, contro l'omologazione dell'individuo. Ovviamente con ma la zeppola vogliono. Di una volta, hanno detto pure. Con o senza zeppola? Con la zeppola. Te lo ricordi? Allora, noi siamo contro le privatizzazioni, contro l'omologazione dell'individuo. Difficilissimo pure per me che non c'ho zeppola. Allora, al 3-2-1 col silenzio, perché lo registro e diventa una suoneria questa. Vabbè. Ho capito, ragazzi, mi devo un attimo rimettere in modalità anni 90. Esatto. Okay. Allora, aspetta. No, perché sai, dopo anni di duro studio e lavoro, lo so. È abbastanza, insomma, non è così automatico. Ci siamo conosciuti con la zeppola e tu mi hai detto ci riuscirò a toglierla. Con Lorenzo Jovanotti. Esatto. Allora, 3-2-1. Siamo contro l'omologazione. Aspetta, com'era? Siamo contro le privatizzazioni, contro l'omologazione dell'individuo. 3-2-1. Siamo contro le privatizzazioni e l'omologazione dell'individuo. Era perfetta, si sentiva me anche da un po', era difficilissima sta frase poi. No, guarda, in realtà basta, appunto, io a 16 anni mi facevo, visto che chiaramente mi prendevano per il culo per questa zeppola, certo, in una maniera sta. Inumana, io mi facevo schermo del fatto che ce l'aveva pure Jovanotti, esatto. Mi faceva il figo, che era le canzoni, quindi in realtà ho iniziato a farmi vanto del fatto che facevo l'imitazione a Jovanotti, quando non esatto. era vero per un cazzo. Esatto, eri te che parlavi male. Ero io, esatto. Che poi questo. È un difetto, noi abbiamo parlato in questa trasmissione, parliamo anche con chirurghi della voce, delle corde vocali, dei tartagli, dei balbuzzi, di qualsiasi cosa. Sono difetti, fra virgolette, che possono essere tolti, a meno che non dipendano da una malformazione del cavo orale terrificante. Invece nel tuo caso stiamo entrando in questo discorso tecnico, sì. Ti dico una cosa che rivolgo a tutte le persone che bravo. Sono interessate. Io ho lavorato in quel periodo quando a un certo punto mi hanno chiesto: senti, ma tu che vuoi fare nella vita? Vuoi provarci veramente o no? Ho detto vabbè, proviamoci. Certo. Chiaramente ho iniziato a studiare un pochettino e a lavorare con un logopedista. Mm-hmm. Logopedista che a sua volta era stato balbuziente. Che aveva avuto la R moscia, vabbè. Tartagliava come un pazzo e non riusciva a mettere le doppie. Beh, niente male. Quest'uomo, che è diventato poi il mio mito, lo saluto, si chiama Mauro Pini. Grande, no, Mauro Pini. Anzi, poi darci il numero e lo invitiamo, perché noi logopedisti fa parte della trasmissione proprio. Ma stai scherzando? pensando. Senti, Silvio, siccome stiamo andando in pubblicità, un minuto soltanto, rimaniamo insieme agli ultimi 10 minuti della trasmissione. Questo racconto è molto interessante, non lo voglio interrompere. Rimani con noi ancora 60 secondi, ricominciamo e ci salutiamo bene. Va bene? Mi racconti bene questa storia. A tra poco con Silvio Muccino e con Voice Anatomy. Anatomy. Come promesso, dopo un po' di traffico, l'amico Silvio Muccino al telefono. Ci sei, vero Silvio? Sì, sono qua. Avevi cominciato questo bellissimo racconto della tua zeppola anni 90, cercata di correggere, è riuscita perfettamente con un logopedista che ne aveva avuto tutti i difetti ma del mondo. Un disastro, ma Mauro era una roba incredibile, nel senso appunto R moscia, non riuscivo a mettere le doppie, tartagliava. Ovviamente sono tutte cose che fanno tutte capo poi a una insicurezza originale, insomma a delle fragilità che tutti abbiamo più o meno, e chi le sviluppa in un modo, chi in un altro. E Mauro si è praticamente, prendendo proprio un libro addirittura, senza neanche con farsi guidare da un insegnante, si è curato da solo, si è auto-educato alla parola ed è diventato poi un... Poi ovviamente ha fatto recitazione, è diventato uno dei più bravi coach che ci sono in giro, ma insomma è anche molto tecnico. Beh, diciamo il nome e il cognome, Silvio, per la gente magari che vuole mettere, ci avrà un sito anche lui, perché mi sembrano le persone allora, giuste da indicare. Guarda, no, lascia stare, no, sono anni che dico a Mauro di farsi un sito, non se lo fa mai, lo dovete andare a scovare su Facebook, o comunque la prossima volta gli chiederò se posso darvi il numero, ma esatto. Penso di sì. Sì, sì, tramite Mauro. E lancerete voi agli ascoltatori, esatto. Si chiama Mauro Pini. Mauro Pini. Perfetto. Per cui lui ti ha insegnato, te l'ha tolta, perché tu era proprio quando siamo conosciuti, il tuo sogno che già apprezzavi il doppiaggio, questo mondo eccetera della voce, mi hai proprio confidato, dico non vedo l'ora, adesso mi metterò sotto e cercherò di modificare questa S, e anche, io ho detto anzi, ma è la tua caratteristica, ogni cantante, ogni attore ha una caratteristica, ma tu volevi proprio staccarti molto da questa S, anche perché si cresce finché uno è giovane, ci sta, magari da grandi. Ma poi sai, se sei uno, insomma, se fai l'attore devi essere uno strumento più o meno malleabile. Certo. Tra le altre cose poi un'altra cosa che poi nel tempo mi ha molto aiutato, specialmente in quegli anni, è stato a un certo punto lavorare proprio con un doppiatore. Ah, certo. E devo dire che quando mi hanno chiamato a fare qualche anno fa la voce di Astro Boy con Vairano, Francesco, anche quello, devo dire, è stato un bellissimo studio, un bellissimo mondo, perché davvero la voce è uno strumento, è come il corpo. È il nostro strumento. Per cui, insomma, poi se sei una persona che fa questo lavoro con amore, ama mettersi alla prova, esplorare, rendersi conto di come ci si possa alzare un tono di voce, abbassare. Certo. È un mondo veramente affascinantissimo. Assolutamente sì, qui arrivano tanti complimenti, vorrei complimentarmi con Muccino per tutte le sue... la sua recitazione, soprattutto per il film Manuale d'amore, memorabile il suo episodio, visto e rivisto 100 volte. Un grande abbraccio al bravissimo Silvio, insomma tanti tanti messaggi di questo tipo, uno addirittura non buttarti giù Pino, Carlo Vacca è stato un grande, mi ha detto vabbè questo è qualcuno in effetti io devo dire che forse sono amato da Tarantino, visto che ho fatto i film con tutti quelli che ama lui, per cui certo. I Tarantini verrà a pescare pure Tarantino, beh allora. Capirai prima o poi lo farà, ma per adesso mi basta doppiarli i film di Tarantino. Senti amico mio, tu sei praticamente tutto adesso, anche il tuo secondo romanzo che io ho letto nel 2011, Rivoluzione numero 9, bello. Grazie, bello. Grazie. E grazie. Poi l'ultima cosa, anche La legge e il desiderio, io l'ho visto perché amo moltissimo quel mondo, il mondo vero dei comunicatori, perché mi piace farlo, insegnare motivazionali, corsi per i grandi manager d'azienda. È un mondo che tu, come l'hai incontrato quel mondo? Come mai ti è venuta questa voglia di raccontarlo? Quello è stato un viaggio molto affascinante, perché ero molto radito da questi predicatori che invadevano internet, che invadono internet tuttora, e mi affascinava cercare di capire quali erano i loro strumenti, come costruivano la loro persuasione, e ho scoperto che esiste proprio una specie di codice Sì. Molti si rifanno alla programmazione neurolinguistica, che è tutto sì, un codice PNL. Fisico e verbale, esattamente, no? Per arrivare, per comunicare, per tirare fuori il meglio delle persone. Mm-hmm. Che è una cosa, secondo se ci pensi, che in qualche modo è la scienza di tutto ciò che invece fino a qualche anno fa era New Age, sì. Erano concetti molto... È diventata, no? sì, fondamentale. Ci vorrebbero ogni squadra di calcio uno di questi. Nella mia ce ne vorrebbero 4-5 di questi motivatori, esatto. Comunque. E alcuni di loro sono veramente fantastici. Sì, sì. Altri sono, diciamo, come in tutti gli ambienti... Sono fanfaroni. Un po' più fanfaroni. Sì. Il mio era particolarmente fanfarone, sì. Ma nel voler affrontare e anche nel voler smascherare quello che c'era dietro, certo, life falso. Coach, ho studiato e ho osservato queste persone. Sì, e l'ho visto, lo facevi benissimo, davvero. No, tra le altre cose mi sono anche molto divertito perché anche lì, a proposito, visto che stiamo parlando di voce, mm-hmm. è lì per esempio la voce è importantissima. È tutto. Per cui abbiamo lavorato con Mauro sempre mm-hmm. per abbassarla, la mia voce, molto. Perché non puoi comunicare, cioè anche lì ci sono tutte delle cose sottintese, per esempio certo. Il tono di voce basso è più rassicurante, assolutamente. Il tono di voce strisce. Insomma, è un mondo fatto di scienza, ma molto interessante. Adesso ti strappo la promessa di venire qui, abbiamo tante cose da dirci, presto, presto succederà, va bene Silvio? Vengo. Assolutamente sì. Ti faccio salutare da Mauro Meconi alla mia destra, che sono, eccolo qui. Ciao Silvio, grazie mille per essere intervenuto, ci sentiamo con calma. Dall'altra parte Alessia Navarro, che ha una voce, la nostra capoprogetto, ha una voce e un corpo, Alessia. Ciao Silvio, grazie di essere stato con noi, grazie mille. No, grazie a voi. Non c'ho le ballerine per fare la sigla, ma insomma, va bene così. Silvietto, un abbraccio forte, grande, sono grande. Quando torno. Sì, sono pronte. Ciao Silvio, buon tutto. Ciao. E allora, a questo punto dovrei avervi fatto sentire anche la voce di Alessia Navarro, che è sempre in silenzio là, il mio amico capuano al quale ho dato un corpo la settimana scorsa a Milano. Eccomi. Mi si è avvicinato e ha detto ciao, sono il tuo amico della domenica. Ho fatto, ma chi sei? Ho fatto, sono capuano. Tu eri un amichetto invisibile. Sei un amichetto invisibile. Capuano, partite, so finite. Mai una gioia, come ti soprannomino io, perché non mi dai mai una bella notizia. Però pure oggi non so belle notizie, vero? Nella MotoGP no, è successo una cosa brutta. Ma è successo che Valentino Rossi era partito per vincere, sì. Ed era competitivo, sì. Perché stava ingaggiando un grande duello con Lorenzo. E purtroppo è stato tradito dal motore della sua Yamaha all'ottavo giro. Motore che è andato in fumo e quindi l'ha costretto al ritiro. È il secondo ritiro dall'inizio della stagione e lui stesso ha detto alla fine della gara: questo è un ritiro che pesa tantissimo nella corsa mondiale. Tra l'altro sfortunatissimo, perché questa mattina nel warm-up la Yamaha di Lorenzo aveva rotto a sua volta il motore davvero un minuto prima che terminasse il tempo. Cosa significa? Significa che se la Dea Bendata avesse atteso un paio di minuti in più, probabilmente Lorenzo si sarebbe dovuto ritirare nel corso del Gran Premio, perché vuol dire che il motore era arrivato a tappo, era arrivato alla fine della sua corsa. Se rompe il motore, boh, io non riesco. Quelle sono cose che non dovrebbe, come se buca il pallone durante la partita, non lo so. Sì, tra l'altro con due motori della Yamaha buttati in 4 ore. E quindi anche questo è tema di riflessione su cui i tecnici dovranno lavorare molto. Forse hanno spinto troppo lì, quando superi. No, la natura è come il corpo, se spingi o qualcos'altro il muscolo si ingrossa, l'osso rimane piccolo, si spezza tutto. Vabbè. Tanto è stato un grande Gran Premio, ha vinto poi in volata da Lorenzo su Marquez, 19 millesimi l'ultimo giro, è stato straordinario e tra l'altro ha dimostrato, questa è una malignità ma poi ne discuteremo anche dopo in tutti i convocati, ha dimostrato che Marquez può anche attaccare e superare Lorenzo se vuole e non come a novembre a Valencia quando gli aveva fatto da valletto scortandolo verso la conquista del titolo mondiale. Va bene, speriamo che Rossi possa recuperare, insomma, un po' alla Totti, come dice lui, gli piace guardare Totti per poi... Ma anche perché l'età è quella, insomma, è uno non piccoletto, Va bene, il campionato non è successo niente, la Juve ha vinto la Coppa Italia. Tutto la Lazio non ha giocato, non ha perso. Che oggi sono in grado di darti. Non ha l'allenatore ancora, tu mi confermi anche questo. No, ma neanche il Milan. E neanche quindi il siete Milan. In buona compagnia. Anzi, beh, vedremo perfetto. Che cosa succede dopo ieri sera. A noi ci vorrebbe San Paolo, non San Paoli. Vabbè. Caro Capuano, un abbraccio alla a te, prossima. Buon tutti i convocati, un abbraccio ai tuoi colleghi e ci sentiamo domenica prossima con i nostri amici tutti convocati, ma soprattutto con i radioascoltatori che stanno tanto amando questa trasmissione. Vi ringrazio di volerci così bene, Voice Anatomy torna domenica prossima.